è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Matti, siamo tutti matti, urliamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura, in fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti! Beh, caro Parenzo, ti faccio ascoltare qualcosa di meraviglioso per iniziare questa trasmissione in questa splendida giornata. Ti faccio sentire una cosa meravigliosa. Buonasera, buonasera, sì. Popolo della Zanzara, buonasera, sì. Lavoratori in rivolta in tutta Italia. Ma dal che nord stai al dicendo? Sud, ma... per salvare un posto di lavoro. Mi ammosci tutto questo. Mi ammosci tutto. Mi ammosci tutto. Mi ammosci tutto. Vuoi? Mi hai già ammazzato la trasmissione. Abbiamo iniziato e mi hai già ammazzato tutto. Ti ho detto, ti faccio ascoltare qualcosa di meraviglioso, opera di un matto, come puoi sentire dalla canzone di Renato Zero, opera di un matto, di un folle, un numero uno però, è l'audio credo del mese appena iniziato, scusa, degli ultimi sei mesi, otto mesi, l'audio dell'anno, del 2012. Ecco. Vittorio Sgarbi che presenta il suo partito della rivoluzione in Sicilia, non so manco come si chiama il candidato in Sicilia, Cateno, non so come, Cateno De Luca, Cateno De Luca, divento pazzo. Senti, senti, è meraviglioso, eh? Tappatevi le orecchie, bambini che siete in ascolto, tappatevi le orecchie. Se voi non vi siete mai drogati, se non l'avete mai preso nel culo, se volete scopare ancora, il vostro partito è la rivoluzione. La cosa più semplice è questa. È questa. Se lo volete prendere nel culo, se volete drogarvi, se non volete scopare più, votate, ci sono tanti partiti, votate UDCC. UDC, PPPP, che queste cagate di merda, di nomi del cazzo, di teste vuote, senza un'idea in zucca. Definizione semplice. Dimmelo, dimmelo, dimmi qualcosa, ti prego. Ma l'hai rimesso di buon umore col signor... È impazzito completamente, lo sai, è completamente pazzo, sì, è completamente pazzo. Cioè ormai, ogni volta che lo sentiamo dice dove sei, pronto, sono a Manto, ci fare che copri, dare un libro, poi dopo dove sei, a Savona, e poi si candida in Sicilia, poi si candida in Sicilia, ovunque, appena c'è un piccolo paese. Senti canta, ancora, subito. Senti ancora, ti prego, senti ancora. È impazzito, dai, completamente. Ma perché io non sono candidato presidente? Per due fondamentali ragioni, perché non l'ho mai preso nel culo e perché non mi sono mai drogato, che sono due requisiti fondamentali per i candidati odierni. Beh, siamo al top, eh. Qui siamo al top. Si riferisce a Crocetta, si riferisce naturalmente a Crocetta e al signor Miccichè, al signor Miccichè. Senti che dice su Miccichè, ti prego, senti che dice su Miccichè. Tu perché ti candidi? Beh, io ho fatto uso di droghe pesanti da giovane e adesso mi sono un po' alleggerito, ma si vede l'effetto di quando le ho prese, e quindi mi candido, perché se non mi candido io che ho preso le droghe, chi si deve candidare? Un pischello qualunque, lasciate fare a me. Vabbè, comunque a piccole dosi, ve lo forniremo, ve lo offriremo a piccole dosi. Vabbè, Di Pietro, no? Questa su Di Pietro la voglio ascoltare, però Di Pietro non sa l'italiano, è tecnicamente uno, sentite. I politici italiani non conoscono l'italiano, a partire da Di Pietro, ovviamente, che doveva essere bocciato in terza elementare, ma un maestro corrotto, concussione, lo ha promosso. Quindi lui è da sempre, porta con sé un reato, oltre all'essere, come dire, tecnicamente uno stronzo, e anche... Ma questo è un fatto tecnico. Poi l'auto blu, sull'auto blu che ha detto, ma ce n'è per tutti, l'auto blu. Stai zitto un attimo, fammi sentire il maestro un attimo, no? Quando vedete questi qui che fanno l'antipolitica, l'anticasta, è retorica. Perché giocano su un fatto molto semplice, che questi qua non solo non fanno niente, ma hanno anche dei privilegi, è giusto. Ma se uno De Gaulle o Mussolini aveva la macchina blu, nessuno si preoccupava della macchina blu, perché le cose venivano fatte. Se tu hai solo la macchina blu e non fai un cazzo, è giusto che tu abbia un incidente stradale, è giusto che tu vada al cesso. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. E beh, punturina oggi per il presidente del Consiglio Monti, che non so quando l'abbia detto, ieri o oggi, a me faccio confusione qui, però ha detto, ve lo assicuro, la ripresa è dentro di noi. Ma che è il divino Telma? Senti. Io invito a constatare che ripresa, se riflettiamo un attimo, è dentro di noi ed è una cosa che adesso è alla portata del nostro paese e credo anche che arriverà presto. Basta fare una puntura. Chi vi ha ricordato? Beh, scontato, scontato. Per gli amanti del genere, scontato. Aniene 3. Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio. Ma le risposte non le devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, però è sbagliata. Vabbè, una specie di voodoo Monti, che cos'è? Una specie Guzzanti, di Guzzanti, era il grande Guzzanti. Sì, no, questo è Guzzanti, certo. Tremonti vuole presentare un suo partito alla fine, una sua lista, lo sai, no? Giusto? Sì. Però uno dice che si mette dalla parte di Renzi e viene insultato ogni giorno dai dirigenti del Partito Democratico. Beh, ormai da mesi, lui dice ogni volta che parla male di me apre un comitato nuovo a mio favore. Vogliamo sentire qualche critica, anche non recente. De Benedetti, te lo ricordi? A marzo addirittura. Sentiamo. Basta fare una puntura e tutto passerà. Al di là dei meriti o dei demeriti delle persone, la gente vuol voltare pagina. Quindi un rottamatore come Renzi potrebbe interpretare questo pensiero? Su quel fronte abbiamo già dato con Berlusconi, per cui non mi sembra il caso di riproporci un Berlusconi di sinistra, si fa per dire. Vabbè, siamo arrivati alla Tina, arrivederci, è stato un piacere. Bene, 800 24 00 24. Era Pennacchi con la moglie. Abbiamo un grande ospite, un grandissimo ospite per parlare di cose siciliane. Chi ti ho invitato stasera? Finalmente. Chi ti ho invitato? Dimmelo. Grande editor Camilleri. No, per parlare di cose. No, non è Camilleri. Che c'entra Camilleri? Su. Non è Camilleri. Per parlare di cose siciliane, per forza, abbiamo un grande intellettuale. Un grande personaggio. Pare che abbia un consenso anche trasversale, consenso, non solo tra i partiti che lo appoggiano. Dunque, è un candidato. Chi è il candidato che ti ho chiamato? È un candidato, te lo dico subito. Potrebbe essere anche Fava, bravissimo. No, Fava, grande intellettuale. Ma che intellettuale, che c'entra? Ha scritto anche il film bellissimo Il muro di gomma. Fava, hai fatto bene a invitare Fava. No, bravo, non è Fava, lo inviteremo. Nello Musumeci è con noi, buonasera. Buonasera a voi. Come eia, sta? Eia, alala. Subito inizia con eia, alala. Ma che c'entra eia, alala? Qui siamo in Sicilia, 2012, e parli di fascismo un'altra volta, Parenzo. Ma sì, non so, a meno che non sia dichiaratamente antifascista l'amico Musumeci, cosa che mi auguro, ma voi no, avete sbagliato con me, che avete male. Io sono nato nel 55, quindi non credo di essere interessato a esperienze di nostalgia. No, non è nostalgico lei, non è uno di quelli che quando c'era lui, no, sa quelle cose. Mi dispiace, no, sono nato 10 anni dopo. Ma perché mi dispiace? Non è che noi ci dispiace. Mi dispiace per voi, dico, ma perché per noi? Non sono l'interlocutore adatto a parlare di quelle cose. No, che c'è, mica noi vogliamo parlare di queste cose qui, noi vogliamo capire come è fatto un personaggio, un candidato, cose che sono utili anche agli elettori, anche siciliani. Signor Musumeci, senta, lei è candidato della destra di Storace, del PDL, eccetera, però negli ultimi anni ha militato nella destra di Storace, però io vorrei chiederle subito una cosa, ma lei è pronta a dire che io sono antifascista? Io sono antifascista. Vede, la sua è una domanda che appartiene al dibattito della storia, non al dibattito della politica. Ma come, la politica non c'è? Certo, faccio a essere anti di qualcosa che non c'è? Ma no, ma che c'entra? Se io sono antimafioso, le dico certo che sono antimafioso, perché la mafia è un... questa realtà. Certo. Mi può chiedere se io sono per la libertà e per la democrazia e le dico che sono per la libertà e questo la democrazia. No, e questo non c'è dubbio. Sono questo... valori irrinunciabili per me. Non c'è dubbio. Dunque lei dice in automatico di essere antifascista. Cioè lei, voglio dire... Dico di essere contro tutte le dittature. Contro tutte le dittature. Comprese quelle comuniste, naturalmente. Vabbè, certo, assolutamente. Sì, no. Cioè, no. Voglio dire, lei ha mai cantato Bella Ciao? Sì, capita a volte in comitiva, persino io sono col pianoforte bandiera rossa, immagino un po', addirittura. Pur essendo un uomo di destra, sì, per fare contento un mio coinquilino che è comunista, sì. E che ogni volta che intonavo, che so, l'inno dei bersaglieri, per esempio, ero convinto che facesse un dispetto a lui. E invece lei ho voluto imparare a memoria, sì. A orecchio, bandiera rossa per farlo contento. Infatti da allora comincio a soldarmi quando mi incontrava sul pianerottolo. Beh, guardi, Musumeci, questa è una grandissima scoperta. Dunque, lei ha cantato un sacco di tempo Bandiera Rossa, che è una bella canzone, mi sembra, no? No, non l'ho mai cantata, l'ho intonata al pianoforte. E come fa? Bandiera... Com'è che fa sta canzone? Se lo ricorda? La... Sì, come no, ma la ricorda anche lei, è anche divertente. Come guardi. Fa? Come fa? Io faccio solo il ritornello, no, sì. No, faccio solo il ritornello. Sì. La la la la la la la la la. E poi c'è anche l'altra che fa l'inno a Roma, per esempio. Ma com'è? Parenzo, tu lo sai, come fa? Sole che sorgi, libero e giocondo. Sole che sorgi, libero e giocondo. Scusi, aspetta un attimo, Parenzo, scusa. L'inno a Roma è quello del fascismo, però. No, non siete male informati. No. Qual è? L'inno a Roma precede il ventennio. Il ventennio, scusi. Precede è un inno che ancora oggi viene suonato, sì. E intonato anche alle Terme di Caracalla. È stato recitato fino a 2 anni fa nel grande concorso di pubblico. No, è un inno che appartiene a tutti, né a destra né a sinistra. Né a sinistra. Però Bandiera Rossa invece è proprio una cosa comunista, no? Proprio una cosa comunista. Com'è Parenzo? Certo. Com'è che fa? Io sono stonato. Aspetti, mi smesso. Bandiera rossa, e poi c'è la strofa più bella, avanti popolo, fuori il cannone, rivoluzione vogliamo far. Beh, non è male. Con Musumeci, rivoluzione vogliamo far. Musumeci, insomma. Evviva Musumeci, siete molto la libertà. Senta, scusi, Musumeci, ma invece Bella Ciao, lei la conosce Bella Ciao, no? Non la conosco nelle parole, conosco il ritornello, ma non è che mi appassioni tanto, proprio perché a me piace Nicola Di Bari, sa? Ah, Nicola Di Bari. Lo preferisco. Ah, lei, il suo cantante preferito è Nicola Di Bari? Ne ho tanti, ma Nicola Di Bari è quello che ricorda i miei primi amori, le mie prime esperienze, le mie prime emozioni. Non so se a lei capita ogni tanto di legare le sue esperienze giovanili sempre, ecco, assolutamente. Benissimo. Ma lei andrebbe al matrimonio del signor Vendola? Se ci fosse un bel matrimonio omosessuale in Italia, lei ci andrebbe per... Sei invitato, sì. Dunque non la scandalizza il fatto che ci sia un matrimonio omosessuale? No, non lo riconosco, ma se vengo invitato ad una cerimonia, perché non andarci? No, un atto di amicizia? No, certo, un atto di amicizia, non c'è dubbio. Però, i matrimoni omosessuali, cioè, insomma, io voglio capire da lei, Musumeci, uno, insomma, che è nato in una cultura di destra, è stato missino. È un fascista post-moderno. No, perché è fascista? Lei è stato fascista? Cioè... Avrei dovuto avere un altro dato anagrafico. No, ma a parte l'Italia di scelta. Vabbè, ho capito, c'è un sacco di gente che è stata missina che si dichiarava apertamente fascista. No, non appartiene alla mia cultura politica. Io sono un uomo di destra che crede nella libertà e nella democrazia. Proprio per questo sto a destra. Bravo. Però ad esempio Romano La Russa, proprio la nostra tradizione, è nel suo stesso, che militava nel stesso partito del signor Musumeci, sì. Tempo fa disse no, invece che lui è fascista, sì, che non si vergogna affatto a dichiararsi ancora fascista. Bisognerebbe chiederlo alla Russa. Ma lo sai che anche Musumeci ha anche un bel pizzetto interessante che ricorda, insomma, no? Ricorda anche la Russa. C'era tipico di quegli anni quel pizzetto, dei militanti missini. No, che sia riconducibile ad una cultura politica. I pizzetti appartenevano già al Risorgimento e forse anche prima. Anche prima. Io, quasi per errore, sai, perché prima portavo i baffi e il pizzetto. Una mattina. Sì. Ho sbagliato a delineare i baffi, ho tolto tutti e due, quello destro e quello sinistro, e ho ottenuto il pizzetto. La mia ragazza piaceva e sono 40 anni che lo tengo. Bene, queste sono informazioni molto interessanti. La ragazza è la stessa? La ragazza è la stessa oppure ha cambiato poi? Beh, da allora ne ho cambiate diverse. A sua moglie piace il pizzetto? Come? A sua moglie piace il pizzetto? A mia moglie il pizzetto, certo che è piaciuto, mi sono sposato col pizzetto. E dunque piace ancora, cioè, non è che le ha mai chiesto, ma togli di questo pizzetto, Nello. No, no, no, io credo che il pizzetto ormai appartenga alla mia identità, alla mia immagine pubblica e anche a quella privata. Il cane una volta, quando ho tolto il pizzetto d'estate per far rinfrescare la pelle, non mi ha riconosciuto, non mi faceva rientrare a casa, immaginate. Ma lo sai che è simpatico sto Musumeci, Parenzo? Berlusconi dice che parla molto bene, tra l'altro. Cioè, no, lui se ne intende, Berlusconi, di persone che parlano molto bene. Senta, prima del traffico, volevo chiedere questo, ma è lei che è dello stesso paese di Pippo Baudo, se dovesse vincere Militello, provincia di Catania, se dovesse vincere le elezioni, ma lo vorrebbe Pippo Baudo a fare l'assessore alla cultura? Sarebbe un bel colpo, eh? Io credo che Pippo Baudo abbia ben altri programmi per la sua Però lo vorrebbe lei, no? Lo vorrebbe o no? Beh, sarebbe un valore aggiunto, senza dubbio. Con Pippo abitiamo di rimpetto nello stesso quartiere, nella stessa strada. È vero che è di sinistra Pippo Baudo, almeno no, dice. Pippo Baudo appartiene ad una tradizione familiare democristiana. Lui vota nel mio stesso seggio e non so se qualche volta forse sarò riuscito a strappargli il voto di preferenza. Cioè ha votato per me, ha votato per lei qualche volta? No, non me l'ha mai detto, voglio sperare che l'abbia fatto. Quest'anno glielo chiederò, ecco, quest'anno lo farò. Vota per me, puoi diventare mio assessore. Dico, Pippo, vota per me, potresti diventare assessore anche se non mi darai il voto, ma intanto se vuoi vota per me. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara su Radio 24 con Davide Parenzo, come al solito in collegamento da Roma. Questa volta un collegamento che non è precario, un collegamento normale, tranquillo, ascoltabile, insomma di quelli che piacciono a me. Pronto? Sì, non mi tradire subito, non mi tradire subito. Non sento niente. E poi, come non senti niente? Devi sentire tutto. Pronto? Sì, e poi Nello Musumeci, Nello Musumeci, candidato... per il centrodestra, diciamo così, anche se poi queste cose... Vorrei sperare che i miei elettori andassero al di là degli schemi tradizionali. Beh, altrimenti sarebbero tutti morti comunque in Sicilia, sarebbero tutti finiti i candidati, perché non si capisce niente. Cioè, voglio dirle peraltro che io ero considerato il presidente rossonero alla provincia di Catania. In che senso? Nel senso che alla mia prima elezione nel 1994, io candidato del Movimento alla provincia, Italiano, sì, alla presidenza della provincia, il candidato del Partito Comunista, che non andò in ballottaggio, disse alla stampa: fra 15 giorni andrò a votare e voterò per il candidato della destra, perché rappresenta la discontinuità. Quindi ebbi 60-70 mila voti provenienti dall'elettorato di sinistra. Per me fu un motivo di onore, perché quando un candidato riesce a strappare il consenso anche fra le file avversarie, credo che sia il massimo della soddisfazione. Senta Musumeci, ci sono quasi 18.000 dipendenti alla Regione Sicilia, 192 dirigenti, cifre pazzesche. No, i dirigenti sono quasi 2.000. Sì, no, stavo parlando solamente di quelli di Palazzo d'Orleano, cioè, vabbè, insomma, troppi, più del governo inglese, dipendenti, che una cifra incredibile. Ma vogliamo tagliare quando lei, se lei dovesse diventare presidente, vogliamo dare una bella sforbiciatina, sì o no? Che ci sia bisogno di una cura dimagrante è fuori discussione, è chiaro che non possiamo mandare a casa i dipendenti pubblici. Ma tutti dicono così, ma bisogna licenziare. Ma se lei fosse dipendente pubblico non la penserebbe così. Il problema è metterli a lavorare secondo le proprie capacità. Occorre razionalizzare, ci vorranno 6 mesi, guardi. Razionalizzare questo personale e destinarlo a secondo delle proprie mansioni e delle proprie vocazioni. Lo dicono tutti. Comunque, vabbè, io per carità ci credo a tutti fino a prova contraria, però fino adesso le esperienze non sono state, diciamo. Mi consente, io le dico questo, visto che parliamo di un tema di grande attualità, l'inchiesta sulle consulenze. Sono convinto. C'erano pure i trombettisti, I pianisti. Che non sia necessario dare consulenza all'esterno, basta valorizzare i talenti e le competenze. Dunque lei vuole azzerare tutte le consulenze? No, io questo senza dubbio, e chi vuol fare il consulente lo faccia, ma a titolo gratuito, farà un atto d'amore per la propria terra, perché vabbè, no, scusi, vedremo, scusi, vedremo, scusi. Vedremo, che c'è Parenzo, che no, c'è? Non so se ho capito bene, perché altrimenti rimangono solo parole. Vabbè, questo per adesso sono parole, poi uno deve arrivare al governo. Ho capito che parole, certo, ho capito, sono parole, che non c'è dubbio. Aspetti un attimo. No, ho capito che il signor Musumeci, candidato a presidenza dell'ARS, dice che taglierà tutte le consulenze. Sì, azzerare le consulenze. Questo ho capito? Sì, giusto? Avete capito benissimo. Oh, ecco. Siamo tutti d'accordo. E se vi foste informati avreste saputo che da presidente della provincia in 10 anni ho avuto soltanto 5 consulenti. E vabbè, ma noi non è che possiamo sapere tutto. No, lo dico io, questa riprova che senta, si accompagna anche un'esperienza. Benissimo, l'unione tra PD e UDC lei la definirebbe contro natura, signor Musumeci? Data non anche, pare, come dire... Non mi pare sia omogenea politicamente. No, ma data anche la omosessualità dichiarata del candidato, signor Crocetta. Questo è un problema che dovranno risolvere i leader dell'UDC con la loro base. Lei dice? Vi dico alla faccia di chi non vuole. Cioè la base dell'UDC non vuole un omosessuale, dice lei? No, io credo che la base dell'UDC abbia già deciso di votare Musumeci. Vabbè, quello lo dice lei, naturalmente. No, lo dicono le cronache locali. Vabbè, ho capito, ma poi vediamo. Però scusi, Musumeci, scusi un attimo. Però voglio dire, secondo lei la base dell'UDC non vuole Crocetta perché è omosessuale? Lo dica chiaramente. No, non so se perché un Crocetta sia omosessuale, io credo che sia innaturale che l'UDC vada in un'alleanza con il PD, con i posti comunisti. Ah, e il fatto che è omosessuale non conta niente, non incide? Senta, per me la vicenda della omosessualità dell'avversario Crocetta appare assolutamente ininfluente. Cioè, secondo lei un omosessuale può guidare la regione Sicilia? Non è un problema questo, secondo me il problema è il programma di cui... Ah, vabbè, dunque l'omosessualità non è un problema, benissimo. No, non lo è, se mantenuto nella sfera privata naturalmente, ognuno è libero di fare quello che vuole. Vabbè, nella sfera privata, anche l'eterosessualità in teoria viene mantenuta nella sfera... Beh, è chiaro che un presidente della regione non va a mettere nel balcone io sono omosessuale, vivo l'omosessualità, credo che questo non lo farebbe. No, vabbè, cioè se andasse al Gay Pride... Se vissuto nella sfera privata, ma è un problema di cui deve dare conto agli elettori, non a me, ecco. No, vabbè, certo, su questo non c'è dubbio. Però non credo che sia un limite la condizione di omosessualità del mio avversario. A me interessa di più capire quello che dice, di chi è destinatario, di chi è rappresentativo e soprattutto le capacità che avrà di poter fare il presidente e di trasformare questa regione. Senta, ma lei se vede due omosessuali che si baciano per strada, che effetto le fa? Beh, mi giro dall'altra parte perché non mi alimenta alcun interesse. Ma si gira dall'altra parte senza che le fa un po' schifo? No. Due uomini, mi dica la verità, due uomini che si baciano le fa un po' schifo? Le dico, mi appassiona di più un uomo e una donna che si baciano, ecco. Provo un pizzico di nostalgia perché non lo faccio da quando ero giovane. Ma come, non bacio una persona da quando è giovane, scusi? Io ricordo la mia giovinezza quando vedo un uomo e una donna baciarsi per strada. Vabbè, ma è bello anche tra due uomini, no? Un bello spettacolo anche l'amore. Sarà bello per lei, a me lascia indifferente. Mi creda, è l'unica sensazione che mi crea. L'indifferenza. Senta, Musumeci, un'ultima cosa, proprio 15 secondi, ma mi dica la verità, se lei fosse stato se fosse nato in quei tempi, avrebbe aderito alla Repubblica di Salò? Mi dica la verità, francamente, mi creda, non glielo so dire. So che vi aderirono tantissima gente, anche gente per bene e in buona fede. Però il problema non me lo sono posto. Sono nato nell'Italia post-fascista e mi creda, ho dovuto faticare. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un passo. Qualcuno rimprovera in questi minuti, caro Parenzo, Matteo Renzi, rimprovera a Matteo Renzi, sindaco di Firenze, di essere alla convention democratica di Obama. Pensi più a fare il sindaco piuttosto che a fare il tour elettorale, ma è evidente che in questo periodo Renzi è più occupato dalla candidatura nazionale a leader del PD e dunque a sfidante, no, a candidato premier. Ma Veltroni, all'epoca Veltroni era sindaco di Roma, era sindaco di Roma e se la memoria non mi tradisce, ma sì, non lo fa, sì, anche Veltroni partecipò a numerosi incontri, e mi pare normale, Partito Democratico. Adesso non mi ricordo i tempi delle dimissioni, no, di Veltroni, però voglio dire, non mi pare una cosa, perché che deve fare, cioè, non, qual è il problema? Che è andato là, fa la campagna elettorale, si sapeva, fa la sua corsa delle primarie, la fa fino in fondo. Qualcuno dice addirittura che non si dovrebbe candidare per legge, dovrebbe dimettersi da sindaco, il signor Fioroni, signor ex Fioroni, ministro della pubblica istruzione. Fioroni, sentiamo e poi sentiamo i titoli del TG3. Smetti di volare, proprio qui, qui da me dovevi capitare, possa via, possa. Vabbè, andiamo prima ai titoli del TG3, che è meglio, va, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Nuovo stop di Berlino a Draghi dopo le indiscrezioni sulle prossime azioni della Banca Centrale Europea. No all'acquisto illimitato di titoli. Napolitano, lo spread ingiustificato. Appello di Monti alle parti sociali. Serve un accordo, facciamo presto. Il premier ottimista sul futuro. L'Italia è ripartita. Camusso, possibile lo sciopero generale. In arrivo un autunno rovente, dice Squinzi, presidente di Confindustria. Poi si corregge dopo l'incontro con il governo. Sono più ottimista di tassare i salari. Bersani interviene sulle polemiche per le primarie, le ho chieste io, ma basta divisioni e parliamo dell'Italia, smentiti organigrammi per i big del Partito Democratico. Berlusconi ascoltato per 3 ore a Roma dai magistrati di Palermo, nell'inchiesta dell'Utri indagato per estorsione ai danni dell'ex presidente del Consiglio. In Siria bombardamento degli aerei di regime sulla popolazione, una strage di civili e bambini, solo oggi 23, più di 1000 dall'inizio del conflitto. Appassionato discorso di Michelle Obama alla convention dei democratici, votatelo ancora se credete nel sogno americano, c'è ancora molto da fare. Io la combatto da ore. L'audio del giorno, la ridicola, diciamo ridicola, ma non vogliamo chiamarla ridicola, l'avventurosa, poi vi facciamo sentire Fioroni se vi interessa, però vale di più questa cosa di Sgarbi, l'avventurosa candidatura di Sgarbi con il Partito della Rivoluzione a presidente della regione Sicilia. Sentiamo, vi prego, sentite, tappate le orecchie ai bambini, ai minorenni. Se voi non vi siete mai drogati, se non l'avete mai preso nel culo, se volete scopare ancora, il vostro partito è la rivoluzione. La cosa più semplice è questa. Se lo volete prendere nel culo, se volete drogarvi, se non volete scopare più, votate, ci sono tanti partiti, votate UDCC, UDC, PPPP, che queste cagate di merda, di nomi del cazzo, di teste vuote, senza un'idea in zucca. Definizione semplice. Poi si è nascosta per me e lascia star la mia vena, non sono il tipo per te. Un altro dice: ragazzi, io l'ho presa nel culo tutta la vita, sono il candidato ideale per essere inculato come tutti gli italiani. Cioè l'italiano è questo, è proprio, io li rappresento tutti, e allora mi candido, mi chiamo anche Crocetta, però se divento presidente lo metto nel culo agli altri, quindi smetto di prenderlo nel culo. Possa via, ho cambio voglia di dormire un po'. Ancora, Crocetta comunista cattolica, stupendo, sentiamo. Per quello che ha fatto quella dichiarazione inverosimile, cioè chi mai dice se io divento ministro non scopo più? Non ho mai visto il mondo, cioè uno fa un voto, ma siccome questo qua è anche cattolico, cioè è tutto Crocetta, è comunista, cattolico, inculato, inculante, inculatore, è tutto. Allora io devo dire che lo guardavo con simpatia, perché questo qua, dico, è talmente strano che è un po' come Grillo, un Grillo un po' suonato, ma è un po' come Grillo poi. E invece quando ho fatto questa ritorica, perché tutta la vita io ho fatto di tutto, come ognuno di voi, come ogni buon siciliano come me, per scopare, trovo uno che mi dice non scopo più, ma che roba è? Non sei il mio presidente. Ti stacco il fungiglione. Dove sei, ma dove sei? Smetti di ronzare. Ancora, godo. Questi qui sono strani, perché abituati a prenderlo dalla parte sbagliata, c'hanno il ragionamento che funziona. E quindi, quando ho letto quella dichiarazione, dico, ma scusa, ma Hollande, quando ha vinto le elezioni in un paese non grande come la Sicilia, ma abbastanza importante, che è la Francia, non è che ha detto, appena divento presidente non scopo più la mia fidanzata. È diventato presidente e ha continuato a non scoparla perché ne scopa delle altre, semmai. Però, Mi dovete spiegare se un programma politico deve essere fatto di uno che ti racconta come l'ha preso tutta la vita e come non lo vuole più prendere, perché diventare presidente è come entrare in convento, dove naturalmente si tromba moltissimo, anche nei conventi, però lui non lo sa ancora. Beh, siamo al top, siamo al top. 800 24 00 24, cosa abbiamo da farvi ascoltare? Abbiamo in occasione un'esclusiva straordinaria, l'ultimo editoriale del signor Facci, perché poi chiudiamo e andiamo tutti quanti a casa. Va bene, editoriale di Filippo Facci. Editoriale di Filippo Facci in esclusiva, questa è una grande cosa che ti regalo. Beh, prego. Sì. Ma perché ironizzi? Vabbè, vabbè, dai, editoriale di oggi di Facci, un po' meno caotico di quello dell'altro giorno, spero. Ma non condizioniamo il giornalista, per favore. Vai, vai pure, su cosa ti vuoi... Insomma, Sgarbi ha detto che in Sicilia i candidati per le regionali fanno tutti schifo, è una cosa poco credibile, anche perché i candidati alla fine chi sono? Cioè, allora, Crocetta, che è dell'UDC, anche se è omosessuale, però è retto da una parte del PD, che è lui, che è un ex rifondazione, ex comunista, sì, anche se è retto da un imprenditore conservatore come Mario Ciancio, che è proprietario del Giornale di Sicilia. Poi c'è Claudio Fava, che è di Sinistra e Libertà, che è retto dall'IDV, che critica Crocetta, che è dell'UDC, perché è retto da una parte del PD, che appunto governò con Colombardo, che e con Cuffaro, che è dell'UDC, ma soprattutto in galera, insomma. E però va d'accordo Fava. Poi c'è Musumeci. Con D'Alia, che è segretario regionale dell'UDC. E poi sì, è giusto, hai ragione, c'è Musumeci, che è un ex missino, Musumeci, destra e storace, ha sostenuto il PDL, però una larga parte dei berlusconiani avrebbero preferito Francesco Cascio, che è il presidente dell'Assemblea siciliana, per il quale chiedono garanzie. Poi c'è Micicché, a cui si deve la candidatura di Musumeci nel PDL, che poi ha lasciato il PDL, dico Micicché, perché ha unito i partitelli Forza del Sud, Noi Sud, Io Sud, per formare il Grande Sud e prossimamente il Partito dei Siciliani con Lombardo, in accordo con Futuro e Libertà. Insomma, non può Sgarbi dire che fanno tutti schifo, perché significherebbe che ci ha capito qualcosa che sia meno di un cazzo. Arrivederci. Bravo, bravo, mi è piaciuto tantissimo il caos siciliano spiegato da Filippo Facci. Bello. Ma no, perché è un ragazzo di talento alla fine. Bravo, sto Facci. E lascia stare. D'Alema, Vendola sarebbe più popolare se parlasse meno di matrimoni gay. Sentiamo. Vendola, secondo me, se parlasse meno dei matrimoni gay, parlasse un po' di più di come governiamo insieme la Puglia, forse sarebbe anche più popolare. Vabbè, le opinioni di D'Alema. Sì, poi D'Alema oggi pare abbia detto anche un'altra cosa che rasenta la follia assoluta. Cioè, che ha detto? Governeremo insieme con Vendola... Anche se non vogliono, anche se non vogliono, sì. Questo l'ha detto ieri, l'ha detto ieri. Sì, ma sembra una roba normale. Sono convinti di mettere insieme Vendola e Casini, che vuoi fare? Alla fine vedrai che può darsi pure che abbia ragione lui, perché poi per governare fanno di tutto, anche mettersi insieme contro natura. Io però una delle frasi del giorno la voglio farvi ascoltare, Monti, la ripresa è dentro di noi, perché siamo al top qui, Io invito a constatare che ripresa, se riflettiamo un attimo, è dentro di noi ed è una cosa che adesso è alla portata del nostro paese e credo anche che arriverà presto. La ripresa è dentro di noi, è dentro di te, l'avverti tu Parenzo la ripresa, la senti dentro di te? Ma io francamente, se ti devo sentire cosa sento dentro di me, guardami come... Non è che pensi alla ripresa, dici, eh? No? Non è che pensi alla ripresa. No, ecco, no, ma come le migliaia di persone che sono bloccate sul grande raccordo anulare tornando a casa e hanno i loro problemi, le loro cose, non è che dicono la ripresa è dentro di me, dai, ma... Io questi tecnici mi fanno impazzire. Ma strano, perché io ero anche all'inizio ero anche innamorato di questi tecnici, di queste tecnocrazie non elette. Parlano troppo, moltissimo. in politichese. Peraltro dovrebbero fare i tecnici, cioè dovrebbero essere più esperti degli altri. Pare che il decreto sull'IMU, no, sull'altra rata dell'IMU sia in ritardo, la Chiesa non pagherà. Cosa? La Chiesa non pagherà, pare. Molto grave. La Chiesa molto non pagherà grave. L'IMU. Insomma, quei geni dei tecnici. E poi promettono anche più lavoro. Parole. L'altra frase del giorno è questa: è Marco Rizzo, per quanto possa contare, comunista, comunista diciamo all'estremo dei comunisti. Senti cosa dice. Questa è la nostra battaglia, cerchiamo di portarla avanti con difficoltà. Vabbè. Perché dirsi comunista oggi ad esempio significa dire che la Siria in Siria, no, la Siria, dobbiamo chiudere la Siria, ci fermiamo. Bisogna dire qui, sulla bisogna Siria dire la che stoppo, le Pussy sulla Siria la stoppo. Sono pagate dagli americani. Ma non ci può mettere dentro tutto, ecco, arrivano le bombe di cioè in Siria ha ragione Assad e le Pussy Riot sono pagate dagli americani. Magari c'ha ragione lui, non lo so. Però chi se ne frega? Vabbè, Massimo da Monza, buonasera. Sì, buonasera, sono Massimo. Dica. Siamo da Lazzate, provincia Monza Brianza. Ascolti, io chiamo perché ho sentito l'intervento di Sgarbi e mi sembra dir poco allucinante, perché mi dà terribilmente fastidio sentire un politico che al posto di preoccuparsi dei problemi della gente dice di non votatemi se sono culatone o meno. Io mi aspetto da un politico tutt'altra cosa. Mi aspetto dei lei mi sembra che ha preso seriamente questo intervento di Sgarbi. Ma mi l'ha preso molto seriamente. Banale. Certo, sicuramente, ma mi sembra un po' troppo banale. Ecco, un po' sbaglia a prendere seriamente questa cosa. È uno show. È un pezzo di cabaret. È un pezzo di teatro. Lo prenda come questo. È un pezzo di teatro. Ma quello ci crede veramente, purtroppo. Ho capito, è un pezzo, ma non ci crede nemmeno lui. È un pezzo di teatro fantastico. Ma sì, certo. Dovete interpretarlo così. Non date troppa importanza a questa cosa. È un pezzo di teatro meraviglioso. Meraviglioso. Sicuramente buono per far notizie, ma al di là ma di no, quello, notizie, della notizia, è buono per fare teatro. Sì, recitazione. Recitazione. Ma quello che a me, io mi aspetto da una regione Sicilia dove. Ma che vuole che gliene freghi a Sgarbi della Sicilia, della regione Sicilia? Ma non gliene importa nulla della regione Sicilia, abbia pazienza. Ha perfettamente ragione. Grazie. Davide da Catania, buonasera. Proprio in Sicilia andiamo. Davide, veloce, su. Davide? Aspetta, da Catania è in ritardo tutto, pure le telefonate. Davide? Non ti arrabbiare, dov'è? Angelo dalla provincia di Cremona. Sì, buonasera. Buonasera. Vada. Ma questo Sgarbi, da che parte del buco del culo dell'Italia è uscito? No. Calma, non faccia come Sgarbi, eh. No, allora se è tutta teatralità, anche la mia è la teatralità, giusto Cusciani? Sì, ma lei non è bravo come Sgarbi a fare teatro, questo è il punto. No, però la teatralità deve essere detta e fatta anche in un modo particolare. Teniamo conto però una cosa, che quantomeno, anche se non mi piace come parla Sgarbi e il comportamento di Sgarbi, quantomeno lui esce fuori con queste cose. C'è molti politici, credo, che se lo dicono tra di loro, quanto ce lo stanno mettendo, scusate il termine. Vabbè, io non ho capito bene. Quindi, qual è il punto? No, il punto è questo. Quanto veramente ci dobbiamo vergognare noi italiani di avere questa classe politica? Ma perché lei prende seriamente questa cosa qui? La prenda come una pièce, Borsa. Beh, non tanto, perché guarda... È peggio per lei, allora. Eccoci qui, 800 24 00 24. Matteo, che c'è? Una cosa gravissima che sta avvenendo in queste ore a Venezia, la mostra del cinema. Che è successo? Una pattuglia di cosiddetti militanti pro-life protesta per l'ultimo capolavoro del signor Bellocchio. Ma è legittimo. Sei fissato con questa cosa, è legittimo. È legittimo. Senza aver visto il film, protestano contro un artista. Ma lascia manifestare le persone. Sì, io critico, però non è proprio. È critica. È una cosa gigante, una cosa veramente. Senza aver visto il film, peraltro, capito? Ma sì, ma lascia protestare le persone. La vicenda di Eluana Englaro, il diritto alla dolce morte, il diritto alla vita. E questi signori usano la passerella della mostra del cinema per distorcere. Hai fatto la tua cosa militante come al solito. Giacomo da Milano, è una notizia. Ma che notizia? Ma chi se ne frega? Giacomo da Milano. In cui c'è la prima di Bellocchio. Va bene, Giacomo da Milano. Sì, ci sono. Vai, Giacomo, vada. Una volta seguivo una trasmissione che prendeva capo dei nostri problemi quotidiani. Ma io non ho mai parlato dei problemi quotidiani, guardi, mi viene la tristezza solo a pensarci. I problemi quotidiani sono tutti quelli nostri, politica agli affari e alla giustizia. Sì. Questa trasmissione poi si è trasformata in uno show, come quello di Sgarbi, dove si dicono un sacco di cazzate solo per Scusiamo, non ho capito Paolo, nulla, la richiamo perché la linea è disturbata. Matteo, provincia di Milano. Sì, salve. Dica. Volevo innanzitutto farvi complimenti, siete due fuori classe, veramente un piacere ascoltarvi la sera. Due cose brevissime, perché poi voi lanciate sempre nuovi argomenti, quindi verrebbe voglia di cambiare le cose che si dovevano dire e dirne delle altre. Comunque, un minuto di raccoglimento vorrei che venisse fatto per Bob Ovieri e la sua depressione che costerà $1 milione all'Inter. Sì. Che non ha fatto bene a intercettarlo, eccetera, eccetera. Qualcuno ha paragonato questa cosa ai risarcimenti nei confronti delle persone stuprate, non c'entra assolutamente nulla oggi. Ma non c'entra niente, quello ha chiesto un sacco di soldi perché ha detto che è caduto in depressione quando ha scoperto di essere stato spiato. Sì, pazienza. Poi ne ha chiesti 28 di milioni, sì, perché sì. Bello è quello. Però vabbè, sarà un dettaglio. Invece c'è una cosa che mi ha incuriosito molto, volevo che voi faceste il possibile. Un attimo solo, un attimo solo. Signor Rizzo. Comunista? Sì. Marco Rizzo. Che fa... fa una festa anche dei comunisti, ho letto, con comizio finale. Bisognerebbe seguirlo in diretta, il comizio dell'onorevole Rizzo. Onorevole, insomma, non è più onorevole da tempo. Rimane sempre la carica, eh? Vabbè, Matteo, che stava dicendo? Senti, a me farebbe molto piacere che voi chiamaste in trasmissione. Oggi seguivo Barisoni a Economia alle 5 e parlava di questo sindaco, questa giunta di Alessandria. Sì. Praticamente diceva che hanno comprato 25.000 penne. No, tra l'altro la cosa più incredibile è il tartufo di Berlusconi. E questa è la cosa che non mi no, capace. Mi tu che sei stato ad Alessandria, Parenzo, un attimo solo, Matteo. Sì. Ma è vero o no che l'ex sindaco, l'ex giunta, non so che cosa, com'è che si chiama, tu che sei stato, ti sei già scordato tutto? No, l'ex sindaco, quello diciamo della giunta precedente, sì, del centrodestra, quelli che avevano comprato quel tartufo enorme. Ma Berlusconi l'hanno comprato? L'hanno regalato, no, a Berlusconi? Sì, c'era scritto così sul Fatto Quotidiano qualche giorno fa. No, regalato a Berlusconi no, sì, era per una, sì, per una esposizione che dovevano fare. No, pare che sia stato un regalo a Berlusconi, no, un tartufo. No, risultava, no, adesso lì poi c'è un'indagine in corso, ma mi risulta che no, per fare una mostra, una cosa, no, non è che poi se l'hanno regalato a Berlusconi, questo non lo so. Ma però, non lo so, ma allora ha indagato male, come al solito, perché dentro quest'articolo, no, guarda, c'era scritto che questo tartufo, questo tartufo che sarebbe stato comprato, era un regalo fatto a Berlusconi. No, questo regalo fatto a Berlusconi non risulta. C'era una mostra di tartufi che loro, sì, hanno messo in piedi. Poi soprattutto l'altra cosa scandalosa che fecero lì al comune è quello di comprare dei fiori all'estero per una cifra pazzesca, sì, sì, sì, mandando in dispetto. Vabbè, Matteo, finanziario allora... il comune. No, mi incuriosiva, voi siete dei grandi, dovreste chiamare questa persona. Queste persone che fanno queste cose dovrebbero apparire in televisione, mettere la loro faccia, bisognerebbe prenderlo a calci nel culo e mandarlo a casa una volta. Com'è che per si tutte, chiama sto ex sindaco Parenzo? L'ha detto Barisoni, non ricordo il nome. Ma però, no, ma sì, Barisoni l'ha detto, lo so, ma è una storia di qualche giorno fa, è uscita fuori. Uno che assume 28 persone per sistemare. Professore? Eccomi. Come sta? Bene. Professore Carlo Taormina è con noi, eh? Come sta? Avvocato! Avvocato, come sta? Bene, bene, benissimo. Che fa? Che sta facendo, avvocato? Che faccio? Sì. Difendo. Difendo. Vabbè, difende criminali incalliti, ovviamente. Beh, certo. Chi vuole che difenda gli innocenti confrontori? Un po' complicato. Senta, professore, ma... ha visto sta roba qui di Cogne, eh? Beh, ha visto che ci sono novità su Cogne, hanno praticamente negato la libertà provvisoria, i domiciliari, la signora Franzoni, eccetera, eccetera. Sì, ho visto. Quali sono le sue sensazioni, professore? Ma le mie argomentazioni sono queste, sono un po', diciamo, falsate dalla mia impostazione di fondo, che è quella che fa capo all'innocenza di Anna Maria Franzoni. Vabbè, l'ho sempre ritenuto e la continuo a ritenere. Vabbè, ma al di là di questo, siccome adesso dobbiamo rispettare, per così dire, le sentenze, anche se sarebbe bene contrastarle in qualche modo, no? Secondo me hanno fatto male perché qui c'è certamente un'esigenza social preventiva che è rappresentata in carcere in esecuzione della pena, ma c'è anche una famiglia, soprattutto ci sono due ragazzini che già da tempo mancano dell'affetto e del calore della madre, e credo che questo comporti una distorsione dal punto di vista anche della loro crescita. Ho capito, però la potestà genitoriale è decaduta. Lo so, giuridicamente, cioè, un momento, giuridicamente è così, la potestà genitoriale è decaduta, però questo non significa che che i diritti naturali non debbano continuare ad essere assicurati nei limiti in cui tutte le esigenze possono essere. Lei dice che è una decisione inumana. È quella. Beh, io la considero una decisione sicuramente inumana, non c'è un bel dubbio. Faccia battaglia. Basterebbe chiederlo ai figlioli di Anna Maria Franzoni. No, lasciamo stare i bambini. Ecco, quindi voglio dire. Dunque lei dice inumano nonostante il fatto che le debbano dare ancora 700.000 euro. Cioè, questo l'abbiamo già detto. Quello è un altro discorso ancora più inumano, se lei mi permette, perché credo che lasciare inevasi i doveri nei confronti di un professionista che ti ha seguito per 4 anni, che ti ha tolto dal carcere, che tutto sommato ti ha fatto, se sei colpevole, ti fa pagare con 13 anni un figlicidio, credo che sia una cosa assolutamente... Barbara. Ma stiamo preparando la citazione, tra poco parte. Per danni. Come, tutti i guai che c'ha, povera signora Franzoni, pure la citazione. Beh, ma i guai sono guai di natura morale, nel senso che abbiamo detto prima. E i soldi sono soldi. I soldi sono soldi e la villa sta lì che la villa deve essere... sequestrata. Ma già scusi, ma già un piano, perché l'altra volta ci parlò di questa villa. Purtroppo ho dovuto spendere, perché come lei sa in Italia per 45 giorni non si fa giustizia per tutto l'anno, ma per 45 giorni se sta un po' in pace si fanno meno ingiustizie, ma non si fanno processi. Ma lei ci andrebbe mai a stare in quella villa, a passarci le vacanze? No, mai, io me la venderei naturalmente, è chiaro. Ma ci pensa lo Stato, a venderla, mica ci devo pensare io. E poi lei incassa però. Lei incassa 700.000, sono un sacco di soldi. 700.000 euro sono un sacco di quattrini. Sono il giusto, sono assolutamente il giusto. Con il lavoro che è stato fatto, con le esposizioni personali che ho subito e con l'ingratitudine alla quale sono andato incontro, credo che sia il minimo che io potessi. Sono solo degli ingrati, cioè per lei questi Franzoni sono ingrati. Non i Franzoni. Perché la famiglia di Anna Maria è una famiglia molto. E lei è un ingrato? Molto. Beh, in parte anche lei, anche se la colpa non è proprio sua, ma di chi le sta intorno. Cioè, la colpa di chi è? Del marito che non vuole mollare sti quattrini? Ma no, ce l'hanno? No, il marito. Ma io non lo so se ce l'hanno i quattrini, so soltanto che la casa è di proprietà loro e io non tengo. Senta un attimo, ma poi c'è un'altra questione qui che si riapre in parte. Parenzo, tu lo sai la vecchia questione di Ilaria Alpi? No, fondamentale, perché c'è il mitico premio Ilaria Alpi. Il mitico premio, importante, quel mitico premio, per carità, tutti i premi che vengono dati a chi viene... Premio a una grande giornalista d'inchiesta. No, guardi, scusi, allora io dico questo. Sì, certo, è stata anche una buona giornalista d'inchiesta. Beh, è morta per quello. E poi insomma è morta facendo un'inchiesta, avvocato. No, questo guardi, glielo dico, raccoglieva le margherite. Glielo dico come presidente, non dico le margherite, ma quasi. Cioè io ho presieduto la commissione parlamentare d'inchiesta per la uccisione di Ilaria Alpi. Sì, che è stato un fallimento totale. No, assolutamente, è stato un successo totale. Basta che lei pensi che abbiamo portato in Italia l'automobile, che è stato il modo attraverso il quale abbiamo stabilito le traiettorie dei proiettili, e quindi abbiamo stabilito che non era stato nessun agguato o una esecuzione come si voleva dagli ambienti comunisti che ne volevano fare un'icona. Ebbene, lì è risultato attraverso questo accertamento fondamentale fatto dalla Polizia di Stato, non da me, che si è trattato di una rapina consumata in maniera improvvisa quando lei è uscita dall'hotel Amana. Scusi un attimo, dunque traffico d'armi non c'entra niente? Quale traffico d'armi? Tutte buffonate. Il traffico d'armi c'era, probabilmente c'erano anche... Cioè non è morta per le sue inchieste giornalistiche, dice lei. Ma non stava facendo nessuna inchiesta giornalistica. E che stava facendo là? Stava facendo? Questo ognuno sa le sue cose private. No, che stava facendo? Era in vacanza? Lo ha dichiarato alla madre nell'ultima telefonata che ha fatto, secondo quello che ci ha riferito. Cioè, dunque, secondo lei, un giornalista che era presente alla telefonata ci ha riferito che aveva detto alla madre: io sto tanto bene qui, vorrei proseguire questa vacanza. Questo lavoro! Era in vacanza, questa è la sostanza. Guardi che Ilaria Alpi, poverina, è morta perché il giorno precedente a quello in cui fu uccisa non era a Mogadiscio, ma era lontana, era a Posato, stava tornando. Stava facendo un'inchiesta. Ma quale inchiesta? Non stava facendo nessuna inchiesta. Abbiamo accertato che non ha fatto nessuna inchiesta. E che stava facendo? Sono affari suoi, io non voglio entrare nella vita privata. Beh, scusi, ma questa è una cosa gravissima. Noi abbiamo cercato, la prova della ricerca di traffici d'armi o di traffici di rifiuti tossici o nucleari o di residui nucleari e non l'abbiamo trovata. L'abbiamo cercata, l'abbiamo più volte. Vabbè, insomma, secondo lei abbiamo addirittura fatto il carotaggio di una strada, la Carò e Bosato. Vabbè, adesso non torniamo a queste cose qua, professore. No, vabbè, me lo chiede, lo dico, scusi. No, ma certo. Scusi, non possiamo la memoria di questa grande collega. Lei, il suo operatore Milan Trovatin, massacrati mentre stavano facendo il loro lavoro, avvocato. Sì, no, ma guardi, scusi. Lei dice che stavano in vacanza. La premessa è sbagliata, non stavano facendo il loro lavoro. E che stavano facendo? Stavano facendo altre cose e non stavano lavorando. E che stavano facendo? In vacanza? Io le dico che non stavano lavorando, le dico che la commissione d'inchiesta ha accertato che nessuna indagine, né sulle armi, né sui rifiuti tossici, nocivi o nucleari è morta per colpa sua, allora. È morta per colpa sua, un po' per colpa sua. No, è morta per i criminali che stavano lì e che infestavano Mogadiscio quel giorno, perché era il giorno in cui il contingente italiano si allontanava dall'Italia e volevano uccidere un giornalista italiano. La sera prima, a casa di un personaggio italiano, c'erano tanti giornalisti, compresa Carmen la sorella, che noi abbiamo sentito e che voi potreste chiamare e vi confermare quello che vi dico. Perché hanno detto partite tutti, perché un giornalista italiano, un giornalista europeo, dovrebbero uccidere un giornalista europeo. Dunque, un po' per colpa sua, tutti sono partiti. Un po' se l'ha cercata, dice lei. Non capisco. No, e lei non è che se l'ha cercata, non sapeva che c'era questa emergenza. Perché era in vacanza? È caduta nella. Certo, era in vacanza, fino al giorno prima era in vacanza. Benissimo. No, ma stiamo screditando la memoria della collega. Scusi un attimo, io non scredito nulla, no, assolutamente. Scusi, chi è che. Lei ha parlato dei comunisti che hanno voluto accreditare un'altra tesi. Cioè, i comunisti hanno combattuto per accreditare questa tesi per anni e per anni attraverso falsità, attraverso costruzioni, cioè delle armi, della grande inchiesta, sì. Hanno fatto una per 15 anni e anche di più, hanno fatto una battaglia su questa cosa e c'erano anche riusciti. Siamo arrivati noi e abbiamo, scoperchiato. No, beh, la commissione parlamentare. Ma la commissione ha votato una relazione a maggioranza, neanche con la totalità. Scusi un attimo, professore, scusi un attimo, ma per concludere, professore. Come Telecom Serbia, sono tutte finite a fascio quelle commissioni. No, ma Telecom Serbia è un altro discorso, possiamo fare un discorso molto diverso. No, aspettiamo un attimo, fermi tutti, voglio chiedere una cosa. Tutti. Ma il signor, i rapporti tra il signor Rovatin e la signora Alpi, quali erano? Io non ho capito bene, secondo lei. Non lo so, certamente non so se erano rapporti soltanto di lavoro, questo non lo so, sono affari loro, non sono affari miei. No, ma lei lascia trasparire qualche cosa. Io non lascio trasparire niente. Io ho un documento riservato e che non ho mai non ho mai esibito, da cui risultano certe cose, ma non le voglio dire perché non voglio mancare la memoria di nessuno. E chi ce l'ha quel documento? E non voglio dare fastidio ad una famiglia che, nonostante abbia per anni rotto le scatole con la creazione di questa icona, però è una famiglia che va rispettata. Vabbè, ho capito, ma lei che documento ha? Lei sta dicendo in bocca a giustizia la famiglia, tiri fuori questa carta. In questa carta che c'è? No, non c'entra niente con la ma giustizia. Ma chi ce l'ha la carta? Dov'è la carta? La carta è a disposizione mia. Ma che c'è in questa carta? Che c'è? No. Cioè, non lo dico assolutamente, non lo dirò ma mai. Che riguarda queste cose qua? Che riguarda? Riguarda delle cose. Ma è una carta che è stata portata in commissione d'inchiesta? Dite alla signora, dite alla famiglia Alpi, se mi autorizza, tira fuori le carte e io le tiro fuori. Vabbè. Ma è una carta, aspetta, questo è importante. Cioè, lei fa un appello ufficiale alla famiglia in cui. Sì. Ma questa carta qui è stata depositata in qualche luogo pubblico? È un documento che noi abbiamo raccolto noi della commissione. E che riguarda? Che riguarda? Cosa riguarda? Non lo posso dire. Ma questo documento qui è agli atti della commissione. Cioè, riguarda la vita privata di Ilaria Alpi? Che riguarda? Agli atti della commissione, entro certi limiti possiamo dire che è agli atti della commissione, entro certi altri possiamo dire che non è agli atti. Ma riguarda la vita privata della signora Alpi? Riguarda tante cose. Tante cose, va bene. Professor Tormina, la ringrazio. Buona serata. Grazie a lei, buonasera. Carlo da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo dire a Parenzo che purtroppo la natura dei trinariciuti come lui viene fuori nonostante si cerchi di essere obiettivi o di sembrare. In che senso? Che ha fatto Parenzo? Che ha combinato? Giornata, guardi. Che ha combinato? Nel momento in cui le definisce assolutamente nei termini con cui ha definito la contestazione al film di Bellocchio, e qualche mese fa l'ha definita gravissima, qualche settimana fa ha colloquiato normalmente con Di Liberto, che ha partecipato alle manifestazioni in cui si cantava 10-100.000 Nasseria. Ma che dice? Che questo definisca assolutamente. Ma come si permette? Ma io ho sempre la vostra con natura, purtroppo a vostro dispetto viene fuori sempre. Ma cosa sta dicendo? Guardi, non è giornata, no, per le farneticazioni. Ma io non ho capito di cosa sta parlando, tra l'altro, Carlo, scusi, mi dica un attimo di cosa sta parlando. Lei ha appena definito gravissimo il fatto che a Venezia delle persone civilmente abbiano contestato il film di Bellocchio. Gravissimo perché non hanno visto il film. Lei si è intrattenuto con Di Liberto amorevolmente. Di Liberto, ma che c'entra Di Liberto? Scusi, a delle manifestazioni in cui si cantava 10-100.000 Nasseria. Ho capito, mica l'ha cantato lui, tra l'altro. Ma noi facciamo i giornalisti e chiediamo delle cose alle persone. Proprio perché fa il giornalista, non può comportarsi in modo fazioso. Ma quale fazioso? Ho segnalato. Ma viva i faziosi, poi, viva i faziosi. Il movimento pro-life non ha neanche. Alimentiamo la faziosità, facciamo veramente un servizio alla comunità. Viva i faziosi dichiarati, viva quelli che dicono Carletto, apertamente come la pensano. Tra l'altro, Carletto, io non ho mai cantato 10-100.000 Nasseria, anzi mi vergogno perché sono da una parte di quei militari. Primo. Secondo. Di Liberto, questo lei non lo contesterebbe mai. Ma certo, glielo ho anche detto. Che delle persone contestino un film, questo ma assolutamente un film che non hanno visto, Carletto, un film che non hanno visto. Ma scherziamo, ma lei pensi che le persone siano così stupide da non sapere cosa può? Vabbè ragazzi, a me però del fatto che ci siano relativamente un film su quel tema. Sì, ma in simpatia il padre di Eluana Englaro. Allora così naif, non sono così naif le persone, sanno perfettamente Bellocchio nel momento in cui fa il film, su quel tema, cosa può dire. Arrivederci, Angelo dalla provincia di Cremona. Ma di che cosa parla? Angelo? Sì, dica. Volevo continuare quel discorso su Sgarbi che mi è rimasto proprio qua, anche se logicamente non bisogna prenderlo sul serio, come dicevate voi, che comunque siete dei grandi, diciamo anche a enfatizzare certi personaggi. La mia domanda è, ma noi italiani veramente continuiamo a credere a questi personaggi oppure sono loro che credono ancora che gli italiani credano in loro, fondamentalmente? Secondo te... Non ho capito nulla, scusi Angelo, mi faccia capire non bene, capito, di che parliamo? Ma sai cos'è il discorso? Che non capiamo mai niente neanche noi di che cosa vogliono farci credere queste. Ma chi? Ma Sgarbi fa un pezzo teatrale, sta recitando, lo capisce o no, Angelo? Lo capisce o no? Ma io lo capisco, ma il problema è che ci sono tanti che non lo capiscono, perché sai quanti fanno gesti teatrali importanti? Tanti hanno fatto, stanno continuando a fare. Angelo, se lei non capisce, pazienza. Fabio da Padova. Fabio, non c'è più. Sabino dalla provincia di Barletta. Buonasera. Qui si fa un gran vociare, un gran parlare del nostro presidente della regione Ventola che si sposa con i gay, non si sposa con i gay, eccetera, eccetera. Che noi ce ne frega proprio niente, anzi ce ne frega straniente di queste cose qua. A noi quello che ci interessa in questa benedetta regione è che già a Barletta ci sono già successi 5 morti per un crollo di una palazzina che poi si sono fatte tante inchieste. Per nulla. Tanti auguri allora, tanti auguri per la palazzina a Barletta, detto con tutto il rispetto. Allora lei non importa del matrimonio gay di Vendola, benissimo. A noi non ce ne frega niente. A lei non frega niente. Non è che lei è l'interprete dei pugliesi, cioè il portavoce dei pugliesi. Io vivo in Puglia e penso che le necessità della Puglia le conosco un po' meglio io che altri giornalisti. Lei conosce le sue necessità, non le necessità della Puglia. Le nostre necessità. Lei è diventato il portavoce della Puglia, benissimo. Ok, allora mi può far parlare se... No, ma lei ha detto che non gliene frega niente del matrimonio di Vendola. Ok, allora fino a qua ci siamo. Ora, sì, ma non è un comizio questo. Noi fino a pochi giorni fa, sì, eravamo c'era il grande problema degli incendi, che non si riusciva a domare incendi per la terra, eccetera, eccetera, con 2000 quasi polizia provinciale che girano, almeno dovrebbero girare, non girano. Ora c'è, ma perché mi devo occupare di contrario? Un attimo, perché mi devo occupare di queste cose? Io perché mi devo occupare di queste questioni che riguardano la Puglia, la provincia di Barletta? Savino, divento pazzo! Un attimo, vi faccia finire. Ma perché ora me lo fa arrabbiare? Esattamente il contrario, e cioè i canali di scolo che dovrebbero i canali di scolo no, non ce la faccio, i canali di scolo, caro Savino, do la parola ad Alessandro da Milano, i canali di scolo no. Alessandro da Milano, buonasera Parenzo, buonasera. Dica, Cruciani. Senta, i canali di scolo, senta, io da vecchio radicale, sì, sono assolutamente favorevole ai matrimoni gay, sì. In quanto liberale, liberista e libertario, sono totalmente liberale, liberista e libertario. Sì. Sono totalmente contrario alle adozioni. E vabbè, questo non è perché lei è liberale, liberista, ce ne faremo una ragione che lei è contrario. Come, no, alle adozioni. Concettualmente, come si chiama, non si lei può imporre a una terza persona, al bambino, le volontà di due. Ma che vuol dire quello? Anche nel matrimonio, anche nell'adozione tra eterosessuali, non si può imporre al bambino di avere un padre e una madre che dopo magari faranno schifo. Ma che vuol dire? Io credo che l'amore di uno zio, di una madre, di un padre, non siano comunque paragonabili all'amore che è da un padre e una madre. Sono complementari. Vabbè, lei è contrario all'adozione, esatto, per i gay. Vabbè, abbiamo capito. Tanti saluti. Registriamo questa cosa. Fabio da Padova, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Niente, volevo intervenire sull'intervento di Sgarbi, su come si è espresso. Lei dice giustamente che sta recitando, però a parer mio una persona pubblica che ha ricevuto soldi anche dal pubblico, si è arricchito quei soldi degli italiani per fare politica, non dovrebbe esprimersi in questa maniera. Qualcuno dovrebbe intervenire. Cioè, intervenire per fare cosa? Per fermarlo? Per censurarlo? No, per fare cosa? Scusa, per dire qualcosa, cioè per fermarlo. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco, come una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Siete mai drogati? Se non l'avete mai preso nel culo? Se volete scopare ancora, il vostro partito è la rivoluzione. La cosa più semplice è questa. È questa. Se lo volete prendere nel culo, se volete drogarvi, se non volete scopare più, votate. Ci sono tanti partiti. Votate UDCC. UDC. PPPP. Tutte queste cagate di merda, di nomi del cazzo, di teste vuote, senza un'idea in zucca. Definizione semplice. Il programma elettorale di Vittorio Sgarbi in Sicilia. Ma io voglio dire, ma c'è ancora qualcuno che ci crede? Diamogli una trigliata. Ma io ho visto il video che tu giustamente mi hai segnalato nel pomeriggio di oggi. Ma c'erano anche delle persone ad ascoltarlo. Cioè, questo, io voglio capire chi erano questi. Questo è il punto vero. Persone che hanno perso un pomeriggio intero in Sicilia anziché andare a produrre, a lavorare rimboccandosi le maniche, e vanno ad ascoltare il partito della rivoluzione. Amico mio, il problema non è Vittorio, il problema sono quelle persone sedute lì ad ascoltarlo. Beh, insomma, è anche Sgarbi per queste parole, eh. Sentiamo ancora un pezzo, ti prego, mi fai godere. Italia dei valori, no, c'è qualcuno che dice no, io sono per i controvalori, cioè dei nomi così, a si alzano la mattina mentre vanno da un cretino, vanno da una suora con le ali, dammi un nome, la Sibilla, dimmi un nome. Italia grande, Italia piccola, buco di culo, tutto così. Ma che Italia grande? Guarda che roba da pazzi, è roba da matti. E come roba da matti tutti quelli che se la prendono col signor Renzi perché è alla convention democratica Obama. Ma se uno fa campagna elettorale, è in corsa per diventare leader del Partito Democratico, ma perché non può parlare dalla convention democratica? Lo fanno tutti, sta utilizzando tutti i mezzi mediatici per far vedere agli altri che sono vecchi. Questo è il punto. Qual è il problema? Qual è il problema? Fa la sua battaglia. Non è che tutti vengono invitati alla convention. No, ci sono andati anche alcuni altri dei democratici. Ma parla del Partito Democratico. Arriva lì, non è che adesso il signor Fioroni arriva lì, bussa. Sì. Ah, sono Fioroni, posso entrare? Cioè, no, guardi, signor Fioroni, it's not in the list. Non è nella lista, signor Fioroni, lo blocca fuori, no? Ma poi lo conosco in America, il signor Fioroni. Ma dico lui per sentiamo Fioroni che se l'è presa corrente. No, ma ti spiego cosa succede. Arriva a prendere il suo aereo da Roma. Arriva in America, sì. Where is convention? Dice, who is you? I am Mr. Fioroni. Bussa. E c'è qui Fioroni. Ma che Fioroni? We don't have Fioroni. Flowers. We don't have flowers. Ma lo lasciano fuori, capito? È così. Va bene, intanto abbiamo fra pochissimo, tra un istante, un grande ospite. Un grande intellettuale, un uomo. Sì, un uomo. Dimmi un grande intellettuale italiano, ti prego, un grande intellettuale molto, italiano. Molto bene. Beh, no, potrebbe essere sicuramente, ma io penso che tu hai fatto l'operazione di invitare Claudio Magris, ad esempio, che è un grande scrittore, un vero intellettuale italiano, oppure Galli della Loggia, ad esempio. Bravo, questa è una bella scelta. Bravo, Ernesto Galli della Loggia. Ma non è Galli della Loggia. O Dali Monte. Ma non è il professor Dali Monte. Ma no, ma è un... Vabbè, adesso te lo presento. Francesco Facchinetti, buonasera. Con sta pioggia, con sto vento, chi è che bussa sto convento? Facchinè, dove stai? Dove sei? Sono Pessoa, non sono Facchinetti, sono Pessoa. Ah, guarda, sei Pessoa, capito, ti ho invitato. Buone notizie, guarda. Che buone notizie ci porti, ciao innanzitutto, buona serata. Ciao, come state? Bene, bene, ma che stai parlando? Col viva voce naturalmente, come al solito. No, sto parlando col viva voce perché ho il cellulare rotto, l'ho sfasciato oggi, devo parlare solo così, se no non posso parlare, forse è meglio non parlare a questo punto. È meglio non parlare, eh. Ma come... tu sei abituato alla radio ormai con Kiss Kiss, eccetera, chiami le persone, adesso se qualcuno ti rispondesse col viva voce lo manderesti a fare in culo dopo due secondi, diciamo la verità. Allora puoi mandarmi a fanculo se hai voglia. No, però non ho voglia adesso. Per adesso non ho voglia. Quando comincerò a sentire male lo farò. Senti, ma Facchinetti per chi vota? Il mitico rock del Capitano Uncino, meraviglioso. Per chi vota? Quello lì è originale di Bennato. Io ho fatto un'altra versione del Capitano. Ma io adoro quando tu cantavi muovi bene il bacino e il rock del Capitano Uncino. Ma che ne sai tu? Ma non ero io quello. Ma non sa niente, Parenzo non sa niente, non sa nulla, fa finta di sapere ma non sa nulla. Ma è lui che la cantava. È più intelligente di tutti noi, è più intelligente di tutti noi, sicuramente. Bravo, dimmi che sei un grande ascoltatore della Zanzara innanzitutto, ti impongo questa cosa, sei un grande ascoltatore. Sono un grande ascoltatore della Zanzara perché ti dirò di più, Enrico, detto il Baffo, sì, che era la persona che quando facevo i programmi in Rai, che adesso ultimamente non ne faccio più, mi portava in giro, sì, t'hanno fatto fuori, sì. Ascoltava sempre la Zanzara e secondo me anche in questo momento sta ascoltando la Zanzara, quindi lo saluto, ciao Baffo. Ma funziona sempre così, guarda, ci sono gli uomini politici che dicono, ma lo sapete che la mia scorta, adesso non è la stessa cosa per te, la mia scorta sono fissi sulla Zanzara, a un certo punto sento pure io e mi innamoro pure io. Anche l'autista di Mentana ascolta. Ma chi se ne frega dell'autista di Mentana adesso, cioè, parla dell'autista di Mentana, sei sempre Mentana in testa tu, cioè, proprio, no, ma se puoi, se ho poi... notizie fresche perché lavoro sul territorio, ma se puoi fare una lisciatina al signor Mentana la fa. Ma no, tanto ma per lui. Non sbagliarsi. Ho detto che l'autista di Mentana ascolta sempre la Zanzara, adesso lo saluto anche qui sotto. No, ma quello lo salutiamo, certo, questo non c'è dubbio. Anche la visagista di Fede ascolta sempre la Zanzara, Sì? Sì, anche Fede però. Muovi a tempo il bacino, sono il Capitano Uncino. Oddio. Bravo, era quella lì. Comunque mi hai chiesto per chi voto. Io non ho mai votato fino ad oggi. Ma come non hai mai votato? Non ho mai votato perché sono uno stronzo. Sono perché? Uno stronzo, non no, ho mai ma votato. Fico così. No, finché ho letto la storia di Mazzini 5-6 mesi fa, adesso non mi ricordo, 8 mesi fa, sì. E mi sono sentito doppiamente stronzo perché ho letto tutta la sua storia, Giovine Italia, Giovine Europa, insomma, tutto quello che ha combinato alla fine per formare la nostra patria. Ma perché ti sei letto la storia di Mazzini? Adesso io non c'hai nulla da fare, questa è la realtà. No, però l'ho letta e mi sono soffermato su una parte. Lui ha formato la patria su tre principi. Uno di questi tre era il diritto al voto, ok? Gli altri due erano l'istruzione, l'altro il senso di patria e tutto il resto. E quindi io, leggendomi questa cosa, vedendo quello che aveva fatto lui e gli altri, ho detto, beh, sono proprio uno stronzo che io non sono mai andato a votare. Quindi mi sono messo lì e mi sono... Insomma, Mazzini mi ha convinto. Mazzini mi ha convinto e alla fine ho cercato, adesso sto cercando, è un po' complesso. Ma vai, andrai a votare, magari ti viene voglia di andare a votare alle primarie del Partito Democratico, se ci saranno. Potrebbe essere, aspetto con ansia il confronto tra Renzi e Bersani, ma arriverà sto confronto o no, non ci sarà mai? Bah, chissà, forse non ci saranno nemmeno le primarie, che ne sappiamo noi. Però scusa, ma non hai scritto su una specie di tweet sì, che voterai, che ti piace Renzi? Perché sono apartitico, quindi ho votato quello che per adesso mi sembra non avere un partito ben definito. Insomma, uno così fuori non è, cioè non è sicuramente il vicino, quello più vicino a me, però è il meno peggio tra tutti gli altri. Per cui perché quello, comunque, più vicino, guarda, quello che è più vicino a te in teoria chi è? Non c'è, cioè tu come non ti c'è. Senti? Uno di un po' più di destra o di sinistra? Come no, cultura? Io... come non, niente, proprio niente. Ma no, no, vabbè, se parliamo di ideologie sembrano bestemmie al giorno d'oggi, per cui evitiamo di parlare di ideologie. In una nazione dove negli ultimi 10 anni il tutto si è basato su berlusconismo e antiberlusconismo, mentre la destra pensava al bunga bunga, la sinistra si incazzava perché non lo poteva fare... Cioè, il grande politologo. Beh, Parenzo, guarda che davvero siamo al top questa sera. No, io comunque siamo al top. Cioè, voglio dire solo una cosa, perché porta in alto la mano il capitano. Mamma mia, che fissazione. Ma lo sai, no, che chiedo voi, no, ma chiedo a voi, dimmi, che assolutamente sapete più di me. Ecco, i giovani, definiamo giovani quelli che hanno dai 18 ai 30 anni, quelli che non hanno ancora deciso che cazzo fare della loro vita, sono lì, devono lavorare, non devono lavorare. Indecisi, che non hanno il decoder per capire la politica, chi dovrebbero votare? E che ne so, il capitano ma a parte chi dovrebbero votare? Cioè, perché alla fine quella è la domanda, guarda, che almeno guarda che se ti presenti tu qualche voto lo prendi, più di qualcuno che si sente sicuro dei suoi voti, Facchini. No. Per carità. No. Lo sai Parenzo che Facchinetti ha fatto uno spot fantastico per quello che ci riguarda, perché noi siamo grandi sostenitori del matrimonio gay, per il Gay Village 2012, in un video che ha interpretato un babysitter omosex in cerca di lavoro, c'erano i manifesti in posa per un bacio gay. Ma hai mai baciato un uomo per davvero tu, Facchinetti? L'ho baciato. Cioè, L'hai baciato. Ma un bacio in bocca, No, dimmi. Allora, nella ricerca della propria sessualità, che avviene dai 13 ai 17 anni, almeno parecchi dei miei amici hanno baciato anche degli uomini. Cioè, hai avuto mini rapporti sessuali con uomini, diciamo? Professor Cusciani, gli è capitato o no di baciare un uomo? No, devo dire di no. Però non è che mi scandalizza la cosa. Per cui nella ricerca della propria sessualità uno a 13 anni, 14 anni non capisce non cosa mi piace. Hai avuto anche un rapporti omosessuali, si può dire così? No. No, completi mai. Cioè, hai capito? Un bacio. Ma guarda, secondo me Parenzo, lei l'ha mai baciato? Mai, anche perché io faccio un passo avanti ondeggiando, un altro indietro bailando. Muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Secondo me Cruciani ha baciato Sgarbi una volta, io lo so. No, io non ho, no, perché non è capitato, ma non poteva anche capitare, per carità. Ma Sgarbi ti fa schifo? No, assolutissimamente no. Rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima, è un estratto da guardarsi su YouTube, da ascoltare ogni tanto, farsi quattro risate. Poi, bravo, alla fine, una grande pièce teatrale. No, guarda, siccome mi stanno scrivendo... È un po' come quando ascolti Grillo, cioè ti devi fare quattro risate, poi andare al di là, perché sennò diventa pericolosa la cosa. Ecco. È proprio così. La cosa che avete detto è gravissima, perché mi ha appena scritto il signor Tavaroli. Mi diceva, Parenzo, hai mai baciato un uomo? No, mai, giuro, davvero, sono eterosessuale, mi piacciono solo le donne. Ma che c'entra? Non vuol dire questo, se baci un uomo mica sei omosessuale. Guarda, vi faccio sentire il mitico Crocetta qualche giorno fa, qui alla Zanzara, Crocetta. Fermati, tu intanto devi fare solo una cosa, devi porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Dimmi. Ma tu sai che io e Renzi abbiamo lo stesso papà televisivo, Che cosa? Faceva la ruota... Gori. Perché lui faceva la ruota della fortuna tanti anni fa, no, Renzi? Gori adesso si è un po' distaccato, è leggermente distaccato. In che senso? Ha scritto un messaggio, grazie, per cui... Grazie per l'endorsement. Dopo mi ha scritto grazie, io prego, però penso sei distaccato veramente. No, è un po' meno entusiasta in queste... E come mai? Non lo so, almeno così mi dicono, però comunque ti ha risposto grazie quando tu hai detto che forse voterai per Renzi, no? Sì, voterò per Renzi. Quindi vuol dire che sicuramente sarà ancora dentro il progetto. Ma che faresti? Che cosa dedicherei? Una canzone che dedicheresti a Renzi, qual è? Non ci hai pensato. Una canzone degli Specials. Come fa? Monkey Man, ce l'avete lì? Adesso la cerchiamo. Come si chiama? Dai, me. Come fa? Come fa? Come fa, Francesco? Ai, ai, ai, ai, ai, Nero, I don't wanna be monkey man. È uno ska. È uno ska, perché Renzi dovrebbe presentarsi un po' così, un po' ballando con quel suo abito. Ecco, dovrebbe essere, ecco, nell'abito, Renzi, se mi ascolti, nell'abito un po' più giovane, cioè un po' più vicino ai giovani, nell'abito. Beh, cioè, adesso, almeno nell'abito. Cioè un po' più un jeans ogni un tanto. Un jeans no, ogni una tanto. Scarpa da ginnastica, perché Twitter non basta, cioè avere l'iPad quando vai in televisione non basta. Almeno sì. Entra ballando Monkey Man, non ce l'hai lì Monkey Man. Adesso la recupero in qualche modo. Non è che ce l'ho. Lì ci avrai tutta una roba, sì, 24, c'è una lista di brani infiniti. Abbiamo, però adesso al volo così, adesso con calma, qualche secondo, adesso la troviamo. Scusate. Hai letto la roba di iTunes, di Bruce Willis? Ma che roba è, mica? No, no. È un jukebox questa qui, radio della Confindustria. Non sembra bella radio della Confindustria. Io ha scambiato la radio 24 per la radio bubù. Ma la Confindustria tutto, ragazzi, la Confindustria è la risoluzione di tutti i problemi. Ecco, Facchinetti. Lei ad esempio si immagina il signor Squinzi all'assemblea annuale di Confindustria che dice muovi bene il bacino, sono Squinzi uncino, bellissimo sarebbe. Vuole essere cacciato Parenzo. Ma no, ma perché? Ma che ho detto Squinzi? Io secondo me l'ultima affermazione di Parenzo è leggermente pericolosa. Io la registrerei. Cruciani, lei la deve registrare questa registrazione. È già cosa tutto. Ecco, e la deve mandare ogni volta che Parenzo gli rompe le palle, perché alla decima volta che la manda Parenzo torna a casa. Torna a casa subito. Comunque la canzone per la campagna elettorale di Renzi quale potrebbe essere? Vai Facchinetti, questa qua che abbiamo detto prima, ce l'abbiamo o no? Vai. Ce la metto o no? Ma che ne so, adesso cerchiamo su YouTube, cercatela su YouTube. Andate su YouTube, che la trovate. No, sulla roba di iTunes che ti dicevo, praticamente Bruce Willis ha detto una cosa che io non sapevo. Tutti i brani che hai scaricato da iTunes non sono tuoi. Cioè è un affitto a lungo termine, per cui quando tu scomparirai quei brani lì ritornano. Ah, ho letto. Non è possibile per gli eredi, diciamo, averli. No, io non posso darlo a mia figlia, per esempio, i brani scaricati. Ma la cosa ti ha preoccupato? Ma parecchio, pensa a tutti quegli amanti della musica che avranno speso migliaia e migliaia di euro di brani, se alla fine ritornano ad iTunes. Vabbè, ma quando uno crepa chi se ne frega, non è che ti devo preoccupare quello, adesso. Quello è anche vero. Nel senso che è vero che sembra una cosa un po' assurda, perché se tu hai scaricato dei brani di iTunes, praticamente una volta che muori quei brani vengono perduti completamente, non possono essere dati a qualcun altro, però in qualche modo insomma penso che si potrebbero ottenere. Vabbè, insomma, sta canzone per la campagna elettorale confermi che è quella, Vai, confermo che è quella. Su YouTube la trovate sicuramente, scrivete The Special, mo che è un gruppo ska, Monkey Man è il brano, ce lo trovate, c'è una versione live anche. Va bene Francesco, ciao, grazie. Ciao. Messaggio per Riccardo Poli, chiamami al cellulare, ripeto, messaggio per Riccardo Poli e Laura Marchesi, chiamami sul cellulare. Vabbè. Eccoci qui, l'abbiamo trovata la canzone che Francesco Facchinetti indica come possibile colonna sonora della campagna elettorale di Renzi, sentiamo. Mettiamo fioroni su Renzi, Sì, su Renzi, su Monkey Man. Se il 28 ottobre Matteo non si dimette da sindaco e non affronta le primarie a faccia aperta e dimostrando che ci crede e che vuol fare il presidente del Consiglio, io personalmente prenderò atto che vorrà pure rottamare gli altri, ma i vizi che ha dato agli altri li ha presi molto bene, ha cambiato solo la faccia, ma vuole prenderne i benefici come succede passato. Cristian, provincia di Bologna, buonasera. Sera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Su Sgarbi, volevo tornare un attimino. Sì. Volevo chiedere un aiuto per non combattere più contro me stesso e cercare di capire, è lui un grosso testicolo di 1,90 m o siamo noi che lo guardiamo e lui è un genio? Non riesco a dirimere questa questione. Vi ringrazio comunque per avermelo fatto sentire, perché me l'ero perso oggi e mi sono sentito una persona migliore dopo averlo sentito. Addirittura? Okay. Sì. Vi ringrazio. Ma perché una persona migliore dopo averlo sentito? Scusi. No, non lo so, io quando sento Sgarbi, non so, mi sento meglio. Addirittura? So, riesco ad apprezzare meglio le mie cazzate, ecco. Cioè, si sente un po' più intelligente, dice lei. Un pochino. Forse un pochino. Anche lui mi aiuta a capire che nella vita ce la si può fare, anche se insomma. Beh, guardi che però Sgarbi è un grande artista, comunque. Sì, ma infatti io sono d'accordo. Quando lei lo chiama grande artista che fa il suo pezzo, io sono d'accordissimo. Però non ho capito ancora se lui è un genio o un testicolo di 1,90 m. Un coglione, insomma, in quel senso. Sì, esatto. Massimo, provincia di Modena. Anche di persona è bello alto, sì. Vi saluto. Grazie Cristian. Massimo, provincia di Modena. Pronto, buonasera. Sì. Volevo fare un intervento sulle parole che ho sentito da Taormina. Sì. Io non conosco approfonditamente la questione di Ilaria, sì, eccetera. Volevo solo dire che questa persona è veramente una serve, perché in 10 minuti ha buttato fango dappertutto senza dire la parola, praticamente, perché non ha detto un fatto, ma ha lasciato capire di tutto. Cioè, che ha lasciato capire? Non mi ricordo. Quando parlava che lui ha gli iscritti, che lì però si può capire che però non può dire niente. Cioè, uno le cose le dice o non le dice, non è che... Lo so, Massimo, lei ha ragione. Infatti io ho detto che sta dicendo delle cose gravissime, soprattutto perché ha detto le carte che dimostrano, ma dimostrano cosa? Dimostrano che... eccetera. Cosa che volevo dire, ma l'ha voluto invitare Parenzo, come al solito. È che a me non dà nessuna garanzia il fatto che lui abbia presieduto una commissione. Ma figuriamoci. Parenzo? No, sono Zaira. Oh, Zaira, sì, ma che fai? Ma sempre con Parenzo stai? Sono sempre con Parenzo, no, ti volevo salutare perché l'ultima... cioè, in realtà mi ha passato il telefono a Parenzo, non è che... Sì, no, vabbè. Non pensavo che tu mi volessi salutare adesso, oggettivamente. No, in realtà ne approfitto e ti saluto perché finisce in onda. E dunque finisce anche il tuo contratto? No, fortunatamente no. E allora, perché? Torna, dai. No, vabbè, e allora che c'è? No, però mi sposto su un'altra produzione e David su un'altra ancora, per cui... Per cui non avremo più motivo e possibilità di incrociarci telefonicamente. Vabbè, le vie sono infinite, quindi... Ah, beh, tutto può essere, certo. Va bene, Zaira, ti do un bacio, via. Grazie, via Etere. Ciao. Abbiamo ancora da far sentire uno Sgarbi, sentiamo. Sgarbi, ieri. Io avevo scelto la parola partito perché nessuno che si presenta per la politica, se tu vai in una discoteca, la chiami discoteca, non chiesa notturna. Non cerchi di cambiare le parole, cioè, si va lì poi si prega. No, si va lì per trombare, è evidente. Adesso mi pare evidente, no? Dice, guardate, votate questa cosa, ma non è un partito, è un albergo, 5 Stelle, cioè, dico, ma la presa per il culo c'è un limite. Io la combatto da ore. Va bene, Alessandro, provincia di Roma, buonasera. Beh, però scusami, questa battuta sull'albergo 5 Stelle, se tu ti ricordi e sei serio, se i primi a farla siamo stati noi alla Zanzara, che l'abbiamo chiamato albergo a 5 Stelle, Mbleu a una stella, quindi ora Sgarbi ci deve dare i diritti per questa battuta, capito? Se sei serio, facciamo una battaglia legale per i diritti. Vabbè, e le ma cose non saremmo stati nemmeno i primi, in realtà. I primi, siamo stati i primi, ho già chiamato tutti per fare esposti, denunzie, ma io parliamo. Alessandro, provincia di Roma. All'attacco subito. Pronto, prontino? Pronto, prontino? Prego, dica. Buonasera, io mi sdilinquisco, grazie per esserci. Quando vi ho chiamato ho pensato, no, devono essere battezzati Eclisse 24 ore, no. Io ogni tanto scrivo, mi chiamo Valelinda 1 nel vostro blog, ogni tanto do qualche commento, Parenzo. 5 o 6 sono stati pubblicati, grazie, proprio grazie. Ma di cosa? Lei sta bene, sì? Siete non solo un aperitivo, siete all'ora di cena, giustamente si parla della realtà. Per fortuna non ho bambini, perché se avessi bambini qui direi che i discorsi di Sgarbi sono scurrili, sono... il toto presidente della Repubblica, non del Consiglio, quello ci viene propinato per endovenosa. Però devo veramente ringraziarvi, lo hanno perché sedato. Per me il Sole 24 Ore ha costituito fonte di attività, autorevolezza nella finanza vera, ma non quella che specula, è quella che aiuta, è quella che favorisce la clientela, favorisce l'esportazione, favorisce il mondo italiano, perché il mondo italiano è, ragazzi, mi raccomando, trattatelo con i guanti, con rispetto, e lo so che lo state facendo, ma il teatro purtroppo sta morendo. In corsia, vi prego, vi prego, la pièce, sì, portatela sì. innanzi come una fiaccola olimpica. Chi ha detto ultimamente che le Paralimpiadi sono tristi? Il povero villaggio, villaggio, sì. Allora, questa tristezza, queste persone su torri di 70 metri, torri queste di migliaia 70 di, metri. Oddio, di infelici, sì. Noi non lo siamo, vi prego, aiutateli. Aiutate grazie. Loro, eh. Grazie. Prego. Accendo la radio. Sì. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Beh, adesso passiamo in corsia, vedrai. Adesso passiamo, non c'è problema. Arrivano signori col camice bianco. Però era già stato sedato una volta, perché dalla voce sì. si capisce che gli avevano già fatto una puntura per sedarlo un attimo, quindi parlava con questo tono anche lento, perché era già... però evidentemente non basta, adesso fanno un'altra piccola puntura e vedrai che lo adesso sentiamo. Intervengono i nostri. Sì, sì. Francesco, provincia di Foggia. Buonasera. Dica. Sento, io vi devo ringraziare perché finalmente avete spiegato qualcosa, cioè nel senso che abbiamo spiegato. Sgarbi, avete spiegato che Sgarbi non fa politica ma fa teatro. Sì. E a un certo punto nella, diciamo, si mi si è accesa una lampadina, anche voi tutto sommato fate teatro, perché voi magari. non trattate o non approfondite argomenti, fate teatro. Questo quindi, no, questo sicuramente no. Ma guardi, sì, probabilmente per me sì. C'è uno scambio di opinioni, diciamo, eccetera. A un certo punto, diciamo certo che avuto anche... se, lei, no, se lei non ha capito che qui non si approfondiscono argomenti, ma si scambiano opinioni, amico mio. Scambio opinione. Non ha capito nulla. Io non sono amico suo, sono un suo ascoltatore, quindi. Amico mio, tempo, io utilizzo l'espressione amico mio, le dà fastidio? Le dà fastidio? Guardi, dopo quello che ho sentito sì. e come ha chiuso la storia con la storia della giornalista Ilaria Alpi, io sono veramente schifato. In che senso? Quindi, scusi? Letteralmente, guardi, ci sono state delle cose dette e non dette, con sì. veleno spazio. Ma quella l'ha dette Taormina, mica l'ho detta io. Ma guardi, lo so che non l'ha dette lei. Però in qualche modo è anche vero che, diciamo, che dal punto di vista teatro ci fa lì. Non ho capito, con chi sta parlando? Con sua moglie, Francesco? Fai gli auguri alla Ferri, che è il suo compleanno. Cioè, Francesco? Vabbè. Giuseppe da Rimini, buonasera. Ah, gli auguri alla Ferri. Ma chi se ne frega, mi su, dai. Mi ha molto del dolore fra di Sgarbi, che lei ti sta difendendo strenuamente. Ma non sto difendendo, io sto dicendo semplicemente che fa una pièce teatrale, sta recitando. Però lui la spazia per un comizio, c'è vabbè, la gente che l'ascolta. Guarda, adesso fra poco se mi fa arrabbiare lo chiamo, Comunque, in ogni caso, il suo spettacolo è penoso, perché sta semplicemente scimmiottando Grillo, e pure male. Cioè, fa uno spettacolo veramente poco originale, usa gli stessi termini, le stesse volgarità, e purtroppo non fa ridere, è penoso. Sgarbi è finito. Lui alle prossime elezioni andrà a fare qualcos'altro se vuol mantenere gli innumerevoli figli che ha, indubbiamente. E mi meraviglio che una persona critica come lei, intelligente, lo difende dicendo è uno spettacolo. Ma io non sto difendendo nessuno, ha capito ma male. Sto dicendo di... bisogna capirlo. Ma non ho detto bisogna capirlo, ho detto non bisogna entrare nel merito, perché non c'è nessun merito quando uno parla in quel modo, è uno spettacolo, un meraviglioso spettacolo, allora oppure bruttissimo. Ignorarlo. Lei lo ignora, io no, lei va vuole bene. Ignorarlo. Comunque ribadisco, è uno spettacolo penoso e aggiungo indecente. La ringrazio e la saluto. Grazie a lei. Francesco da Cagliari. Buonasera. Dica. Interessava il riferimento a Mazzini che ha fatto prima Francesco Facchinetti. Eh beh, con Mazzini ha deciso, leggendo Mazzini, che vuole andare a votare. Io l'ho scoperto nel 78, avevo 13 anni, ancora oggi per me è un faro. Che vuol dire? Vuol dire c'è, che chi lo, c'è chi lo scopre nel 78? Morale oggi è più impellente dei tempi di More e Berlinguer. Solo che adesso ne hanno consapevolezza i cittadini, adesso ne avevano... consapevolezza sono grandi politici come More Berlinguer. Vabbè, adesso Francesco, consapevolezza diffusa. Non mi complichi la vita questa sera, che sono le 20, 28 e 23 con discorsi troppo alti. Comunque lo sciamario Monti ha scoperto che la crisi è dentro di noi. Io l'ho detto, è uno sciamario, non è un medico. Why don't you go home? Monti, la ripresa è dentro di noi. Io invito a constatare che ripresa, se riflettiamo un attimo, è dentro di noi ed è una cosa che adesso è alla portata del nostro paese e credo anche che arriverà presto. Corrado Guzzanti. Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, ma le risposte non le devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata. Se in realtà, dimmi, in realtà Monti vorrebbe infondere fiducia, no? Solo che detta con quel tono lì, con quella verve, con quella voce, francamente è anche difficile crederci, no? Perché un altro dice, fiducia è dentro di noi, dici cazzo, un po' di entusiasmo, amico mio, però no? Cioè, magari può dire anche una cosa vera, cioè che comunque bisogna, no, darsi l'utile da fare, credere che comunque il paese si riprenderà, credere che esisterà un grande futuro, credere che le cose cambieranno, no? Questo anche un premier, un coach deve fare anche questo, no? Però detto con quel tono là, effettivamente. Gabriele, provincia di Brescia, buonasera. Esatto, no, di Brescia, no, di provincia. Di Brescia, ascolta, di Brescia. Vabbè, non, è mica, non, è mica un non è mica un delitto essere di provincia di Brescia. Che mi frega, tanto non sono bresciano, io sono ligure, per cui non c'è problema. Allora? Allora, io ho telefonato per l'unica cosa che... Io sono ancora in giro a lavorare, faccio il rappresentante dell'abbigliamento, faccio la fame, no? E quando vi sento tutti questi casi di discorsi di Sgarbi, mica Sgarbi, tutta questa gente che io non so come cacchio mangiano questi, io non so come si continua a trasmettere e far ascoltare questa gente. Vabbè, ma c'è chi lavora girando come un pazzo come lei e c'è chi lavora in un altro modo, non è che si lavora tutti allo stesso modo, Aspetta che ti saluta. Ma moralmente, aspetta, scusi un attimo, aspetta che moralmente che? Moralmente fermati, che c'è un'esclusiva, fermati. Chi c'è? Chi c'è? Fermati, fermati. Non sono più in esclusiva, buonasera. Buonasera, con chi parlo? È sempre io. Ah, Zaira? No, non sono Zaira, sono Gaia. Ah, Gaia, ma scusami, sì. Gaia Tortora. Ma perché mi presenta le persone? Mi passa al telefono alle persone senza dirmi nulla, come al solito. Non lo so, ha ragione, è sempre lo stesso. Signora Tortora, è il suo compleanno oggi? Il mio? No, siamo lontani ancora. E allora perché diceva che era il suo compleanno prima? Hai detto che il mio fai gli auguri a Gaia Tortora. Quello della Ferri, quello della Ferri. La Ferri, ma sì, è scusa. Stato il 3 settembre, se vogliamo stato il 3 essere settembre. Precisi. Mi fa confondere, sì. Fa un casino tremendo. Glielo vabbè, ripasso. Grazie, grazie tanti signora. Tanti cari saluti. Grazie i signora miei Tortora. Omaggi. Grazie. Gli omaggi a lei. Tanti cari saluti, visto che vabbè, caro, stavo parlando con un signore che non c'è più. Mi hai fatto perdere un ascoltatore. Ecco, subito. Mi hai fatto perdere. Lo vogliamo richiamare per favore il signore ma che stava in macchina a lavorare? Ma Tortora, stai qui a sentire quel signore lì che dice vabbè. Scempiaggini. Davide da Milano, perché scempiaggini? Stava dicendo una cosa. Non mi sembrava, comunque, per carità. Vabbè, Davide. Sì, buonasera, Cruciani e a Parenzo. Senta, io ho 29 anni, sì. Dopo aver sentito, quindi faccio parte comunque di quei giovani che fanno fatica, veramente fatica in Italia oggi. E, dopo aver sentito Sgarbi, diciamo che io non andrò più a votare proprio. E addirittura, ma adesso non è che bisogna. Ma non è per Sgarbi, signor Cruciani, mi perdoni, non è per Sgarbi, è perché sentire parlare tutta l'elite di questi partiti, movimenti, insomma, quant'altro, che in realtà cercano semplicemente di garantirsi, in questo caso Sgarbi. Sì, ma che c'entra questo? Scusi, cosa c'entra con quello che ha detto Sgarbi? Questo paese, no, questo paese, beh. Se Sgarbi viene eletto, rappresenterebbe gli italiani in una qualche maniera. Ho capito, ma lei, se non le piace, se non le piace quello che ha detto, non va a votare, punto. Sì, ma io infatti non lo vota, dicendo, non lo vota. Ma infatti non lo voterò, anche perché non posso. Ma siccome tutti quanti dicono idiozie come quelle che ha detto Sgarbi, non in egual ma maniera. Ma non è vero, su, dai, non è vero. Mi perdoni, ma nessuno mai parla realmente di poter aggiustare qualcosa in questo paese. Cercano semplicemente di tirare avanti la carretta, ma questa carretta sta andando sempre più giù e nessuno lo vuol capire. A me dispiace per i nostri antenati, degli italiani che hanno combattuto gli antenati. Per farci per farci andare a votare, per farci avere questa democrazia. Mi sa che ha ragione Parenzo, però. Come? Riguarda cosa? No, riguarda il fatto che forse era meglio ascoltare la signora Tortola, perché gli antenati degli, la Tortola, te l'ho detto. Gli antenati degli italiani, no, su. Voglio risentire Davide, non mi interessa. Se lei sente Sgarbi dice non andrò a votare, non c'entra nulla. Gabriele della provincia di Brescia, anzi da Brescia. Ti ho detto prima, era meglio ascoltare, fatto bene l'ascoltatore. No, mi ricordo la signora Tortola. Finalmente ti sei accorto che era meglio la signora Tortola di questo signore che è sconfusionato. Gabriele è uscito dalla corsia dell'ospedale, scappando via. Gabriele? Sì. Allora? Allora, prima di tutto, ma Cruciani, come si fa? Io vi ascolto sempre, tutti i giorni, tutte le sere, perché sì, quando rientro dal lavoro. Mi dà del pazzo che giro come uno sconclusionato, ma... Ma quello è Parenzo. Parenzo, quello ha sbagliato spacciatore. Vabbè, niente. Vabbè. Ascolti una cosa, Cruciani, qui è un casino in Italia, sto facendo un discorso. Vabbè, quello si sa. Dunque? Se è possibile fare un discorso serio, sì. Uno che si alza la mattina alle 6:30 della mattina, rientra a casa alle 9:30, 10 la sera, qua e là, che deve vivere sui 50 euro che può mettersi in tasca, dopo ti tocca andare a pagare le tasse, andare a pagare. Ma come si fa ad andare avanti così in questo mondo? Ma lei perché mi fa questa protesta, questa lamentela? A 54 anni invece di andare avanti, qua stiamo tornando a... Ma che stanno tornando? Stava molto meglio quando c'era il Duce, secondo me. Eccoci poveretto. Adesso passiamo con la pillola, non si preoccupi, non c'è nessun problema. Col pillolone e l'olio di ricino. Ma che olio di ricino? Col siringone, su. Col siringone. Lei fa una protesta, una lamentela. È in convenzione col Ministero della Salute, è chiaro. La gente telefona 800-24-0024, è il numero in convenzione. Esatto. Abbiamo fatto un accordo col Ministro poco fa. Esatto. E quindi abbiamo rinnovato, anzi, l'accordo. Infatti bisogna fare anche domanda per infermità mentale, giusto? In che città sta lei? Che facciamo subito un TSO col sindaco. Che città è la sua, scusa? Brescia. Il sindaco invece che è della Lega, tra l'altro. No, che Lega. Telefono a Paroli, non è di Bergamo, Paroli, non è della Lega. Comunque facciamo subito un trattamento sanitario obbligatorio, PDL, non ti preoccupi. PDL, CL, no, giusto? Sanità pubblica funziona in questo paese. Paroli, sì. Gabriele, Rossi, comunque, guardi. Rossi che è della Lega. Sì, ma il siringone non. Lei non può sfuggire al siringone, Gabriele. No, al siringone non si può scappare. Beh, si stava meglio quando c'era il Duce. Ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Andiamo a Monza da Andrea. Gabriele, mi sono scocciato. Su, Andrea. Mi sente, Cruciani? Vada. Sì, buonasera. Ascolti, ma dove sono le ambulanze, gli scimposi che mi insultano parenti? Io sono rimasto folgorato da quella... Lei è in viva voce, Eh sì, sono in viva voce, Cruciani. Ho capito, prenda il telefono, lei che può. No, però la prego, Cruciani. Prenda il telefono, la sento lontano, prenda il telefono. Mi sente più vicino adesso. Ho capito, ma non può restare in viva voce, se tutti fossero in viva voce non sentirebbe nessuno, su, dai. Cruciani, che devo dire? Prenda il telefono! In mano, Cruciani, sto cazzo di telefono, non posso fare più di così. Vabbè. La prego, Cruciani, quello che voglio dire è mi porti in trasmissione gli scilipoti che insultano Parenzio, la prego, perché io ne sento la mancanza, ma veramente, ha capito quello che intendo? Ha più mostri di questa sera, che cosa vuole? Cioè, vuole la collezione completa? Stasera siamo a buoni livelli, perché voglio dire, epigoni del pensiero debole come voi, cioè devono fare cazzate, devono dire cazzate tutti in secondi. Benvenuto nel circo. Va bene, Andrea, la accontenteremo. Carlo dalla provincia di Firenze. Oh, buonasera, Cruciani. Buonasera. Volevo chiedere, vedete delle analogie con la candidatura di Renzi e la discesa in campo di Berlusconi del 94? Che domanda complicata. Cosa, volevo parlare di Sgarbi e di Grillo. Sì. Purtroppo in questo periodo c'è necessità di Sgarbi e di Grillo perché manca un politico. Un politico che dica le cose chiare. Anche Monti, che all'inizio è stato visto come la salvezza, pur da tanti, anche dal sottoscritto, si è poi accodato alle logiche della politica italiana, alle vecchie logiche della politica italiana. Ma chi? Monti. Monti, beh, quello è vero. Un po' sì. Dichiarazioni roboanti, parole inutili, talvolta inutili. Dentro di noi, Divino Telma. La ripresa è dentro di noi. Sì, insomma, sa, quando uno poi è al potere, quando uno tiene in mano la situazione, poi ti viene l'acquolina in bocca, cioè, vuoi restare attaccato a quei posti, ti dispiace un po' perdere quel potere, dunque un po' ti affascina l'idea in qualche modo di contare qualcosa quando, anche dopo. Carlo, grazie. Michela da Vicenza, buonasera. Michela? Pronto? Buonasera. Buonasera, siamo da Milano. Senta Cruciani, io sentivo qualche giorno fa una signora che riferiva di una notizia che riguarda la sua vita privata. E quindi e perché, perché vuole parlare della mia vita privata? Glielo dico. Non io, infatti non è di quello che voglio parlare io, è la risposta che lei ha dato che mi ha colpito, nel senso che lei ha detto che la Zanzara non si occupa di queste cose, però secondo me è una cazzata, perché fino a ieri la Zanzara era la grande casa di vetro e di queste cose se ne occupa e come. Quindi mi aspettavo da lei una risposta comunque più brillante, o che comunque insomma in ogni caso non si nasconda dietro il fatto che secondo lei queste cose non interessano. Ma io non ho detto che non interessano, posso pure interessare qualcuno, ma sarebbe ridicolo che mi mettessi qui a parlare della mia vita privata, non avrebbe senso. No, ma infatti io non è che gliel'ho chiesto di dire quello, se mi ascolta. Potremmo discutere, amico mio. Ma quello che mi dice, no, però mi aspettavo da lei una risposta un pochino più brillante. Ma in quel momento mi è venuta quella, poi magari migliorerò nelle risposte. La sua posizione di domino, ci dica che la Zanzara è una grande casa di vetro per gli altri, o chiami Fabrizio Corona che ha esperienza di queste cose, suggerisce una risposta. Ma guardi, secondo me ad esempio risolverebbe tutto invitare un grande scrittore, il grandissimo Lucarelli, ad esempio, grande raccontatore di storie. Sì, dici? Dici? Perché non ci sono misteri da risolvere. Vedi, questo è divertente, sono qui sempre con Gaia Tortola che ti saluta. Sì. Sì, perché l'hanno a squadra Zanzara e dicono brava, bene, sei stata molto brava con Cruciani. Sì, ma non c'era da essere né bravi né pippe, insomma. Mi hai passato al telefono una persona che dopo mi ha detto di essere Gaia Tortola. Cioè, l'ho salutata, ma non avevo nulla di cui parlare, insomma, no? Perché vabbè. È uno dei ragazzi di una dolcezza infinita. Ma chi ha detto il contrario? Non ho detto il contrario, mi ha imbassato una persona, non sapevo che fosse Gaia Tortola. Ci siamo salutati, ci siamo omaggiati, punto e basta. Poi non è che, cioè, non c'era nulla di cui parlare. Ma dove vuoi andare a parare? Non ho capito. No, ti volevo semplicemente dire che secondo me sei stato sgarbato con la bellissima torta. Dopodiché... Ma non sono stato sgarbato, chiedilo a lei. Lei... di quello che hai fatto, va bene? Vabbè, ok, sono stato sgarbato con la signora Tortola, vabbè, d'accordo, questo dice Parenzo alle 20:45. Io ero però con Michela da Vicenza che non ho ancora capito qual è il punto, cioè secondo lei dovrei essere trasparente... Da lei mi aspettavo una risposta più brillante, o forse la signora ha colto nel segno, non lo so, insomma, comunque se la cosa sia vera, dico... Beh, insomma, si vede che le lezioni del vichingo hanno dato buoni effetti, quindi continuiamo a farle, insomma. Le lezioni del vichingo. A proposito del vichingo, il vichingo mi segnalano che è affondata al largo della costa il battello del partito pirata, caro Parenzo. È la bella notizia del giorno questa. Addirittura. Ma dai, su. Stanotte a 3 miglia al largo di Ancona il battello del partito pirata è affondato. Lo ha riferito lo stesso vichingo, che però è sopravvissuto. Adesso non puoi essere contento se affonda. Lo stesso vichingo. Ma lo fa anche il comunicato di stampa il signor vichingo adesso. Certo. Immagini questa scena qua. Sì, immagini la scena del signor vichingo che manda un comunicato a stampa, che sono al direttore dell'ANSA, no? Il nostro amico direttore dell'ANSA telefona e dice: pronto, buonasera, sono Davide il vichingo, mi passo al direttore dell'ANSA, per così dire. Già la centrale gli sta impazzito, dice: scusi, chi è lei? Davide il vichingo, quello che insegna la lezione di come si cucca sulle spiagge. Ho fondato un partito, il partito dei pirati. Cioè, ma secondo me adesso... Vabbè, magari ci arriva al telefono, no? Magari ci arriva al telefono, glielo passano magari. Facciamo una prova. Perché non facciamo provare? Veramente, facciamo chiamare Davide il vichingo, il direttore dell'ANSA, vediamo cosa succede. Secondo me no, è troppo serio. Penso che si presenta alla sua porta e bussa a un certo punto, no? Bussa, sì. Esatto, adesso non ho da far bussare, aspetta un attimo. Vediamo se trovo. Aspetta, ecco qua, aspetta un attimo. Sì, chi è? Sono il direttore dell'ANSA. Sono Davide il Vichingo. Volevo fare un comunicato. Chi? Davide, ma portatelo via. Chiama subito la Neuro Deliri, capito? Lo prendono. Non lo fa neanche entrare. Chiama la Neuro Deliri subito, lo portano via. Eccoci, eccoci qui, 800 24 00 24. Michele da Roma, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, buonasera. Dica, dica. Bruciani. Ecco, bravo, vienimi a prendere, allora, caro radioascoltatore, che sono qui a piedi a Roma. Allora, dove sta Parenzo? Venga a prendere con il mio scooter. Venga a prendere, qua, sono a Piazzale Clodio, vienimi a prendere, mi dai un passaggio, va là a casa. Va bene, allora accendi un cerino così ti riconosco. Ma comunque, lei dove si trova, Michele, in questo momento? Io sto a Viale Parioli, io abito ai Parioli. Vabbè. Sono un pariolino. Comunque, a parte questo, viva Sgarbi! Lei viva dice, Sgarbi, eh? Lei dice. Voterò Sgarbi, sì. E quelli che stanno parlando male di Sgarbi, che hanno i conati di vomito sentendo Sgarbi, non capiscono nulla. Perché? Perché Sgarbi è un personaggio di un'intelligenza così acuta che si mangia tutto il Parlamento. E addirittura su, dai, tutto il Parlamento. Beh, ma la dai, persona su. È ficcante, almeno sa quello che dice e soprattutto è acculturato. Vabbè, anche quando affronta le cose in questo modo, anche quando affronta le cose così, risentiamo. Se voi non vi siete mai drogati, se non l'avete mai preso nel culo, se volete scopare ancora, il vostro partito è la rivoluzione. La cosa più semplice è questa. È questa. Se lo volete prendere nel culo, se volete drogarvi, se non volete scopare più, votate, ci sono tanti partiti, votate UDCC, UDC, PPPP, che ste cagate di merda, di nomi del cazzo, di teste vuote, senza un'idea in zucca. Definizione semplice. Eccoci qui, allora, perché... Confermo. Quello che ho detto prima, quando dice no, non prendetelo per il culo, ovviamente non è letterale la cosa, è figurale, è metaforica. Ma si chiama l'analisi filologica delle parole di Sgarbi adesso, l'ho mica capito. Ma dai, su, dai, è una follia quella che ha detto. Dai, proviamo a richiamare, era spento, proviamo a richiamare. Chiamatemi il numero di Sgarbi, voglio chiedergli conto di questa follia, di questa nuova follia. Lo voglio distruggere questa sera, se posso, lo voglio distruggere. Sì, è una grande pièce, però un'assurdità. Cosa c'entra? È un'assurdità, è una grande pièce teatrale, però di politica non c'entra niente. Mario da Firenze, Mario. No, non c'è, chi è? Eccolo, finalmente. Pronto? Vittorio? Yeah. Cruciani, ciao. Ma che hai detto su Crocetta, su Michichella? Ma una cosa pazzesca, qui alla radio l'abbiamo mandato tutta la sera. Una grande pièce teatrale hai fatto, una cosa strepitosa. Sì, non me la ricordo più, ma quella che abbiamo fatto a... Ma la presentazione del Partito della Rivoluzione, sì. Hai detto, se voi, com'era la storia? Ma non me la ricordo più. Ma come ho non detto, te la... Siete voi che vi occupate di Crocetta, di questi... disperati, ho detto la verità, non so che neanche uno può affidarsi a uno che dice ho preso droghe pesanti, un altro che dice non scopo più, ma che roba è? Cioè, non è che sono dei candidati questi. A parte che la Sicilia non ha più nessuna possibilità di rinunciare. Ma il tuo candidato è rinviato a giudizio, peraltro, il tuo candidato, Cateno, là, come si chiama? Appunto, infatti, che vuol dire rinviato a giudizio? Vabbè, vuol dire qualcosa comunque, rinviato a giudizio, non è che sia una cosa da poco, uno dovrebbe... Parenzo, di qualcosa... Ma no, ma è evidente che è tutta una farsa, cioè come si fa a candidare una persona che è rinviata a giudizio in Sicilia, peraltro? Dai, Vittorio, su, basta! Io non so di cosa stai parlando, povero deficiente, se non ti rinviano a giudizio solo perché non esisti. Che vuol dire rinviato a giudizio? È stato rinviato a giudizio anche Tortora, imbecilli, difendete Tortora, assumete un po' di dignità, noi questi magistrati hanno sempre ragione, smettetela di fare le capre quali siete, con ragione di rinviato per che cosa? Se neanche per che cosa? Tu no. Sei rinviato giudizio nel buco del culo. No. Risultare la gente. No. Che vuol dire? Ma io non ho detto che è un delinquente, ho detto che non è opportuno, magari. Non è opportuno candidarlo. Deve ritirare aspettando che faccia il suo corso la giustizia. Ma che cazzo dite? Ma dai, su. Ma dai, ma hai detto che quello si droga, quell'altro lo prende. Quello l'ha detto lui, quello ma sì, in gioventù, l'ha detto da noi qui, ha detto non è che fa campagna elettorale su questo, l'ha detto noi come ricordo di gioventù, non è che fa la campagna elettorale sulla droga. Se uno può ricordare anche delle cose più sensate della sua gioventù. Ma come se non ti fossi mai drogato tu, come se non avessi... Io mai drogato, tu ti sei drogato, animale, io mai, ma io, mai, ma io mai, nemmeno io, nemmeno, ma nemmeno io. Tu e tua madre troia. No, no, no, no, no, fermi, no, no, ma che c'entra adesso, che c'entra, Vittorio? Ma dai, su, ma dai. Tu sei drogato. Ma dai. Vabbè. Passo da drogato. Vabbè. E invece, vabbè. E non chiamatemi più. Vabbè. Volgari diffamatori. Ah, noi. Imbecili, noi. Ma hai detto delle cose assurde. Vabbè, aspetta. Chiudiamo, va, basta. Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. È pazzo, è pazzo. È completamente pazzo. Vabbè. Oreste da Novara, Oreste. Sì. Dica. Ma devo dire che mi diverte sentire la vostra trasmissione. E a differenza di quelli che hanno prima chiamato, io sì, in effetti sono un estimatore di Sgarbi, anche se ogni tanto cede un po' con i termini, però ha detto cose illuminanti in questi anni. Che ha detto? E io lo seguivo dai tempi. Prego. Ma che ha detto? Ma ha fatto un comizio l'altro giorno in Sicilia che era una cosa inascoltabile. Ma io l'ho sentito quello che ha detto, però... Alla fine distingo quelle che fa come sceneggiate dalle cose che invece bisogna interpretare le cose che sa fare effettivamente. È una persona intelligente, istruita e al suo tempo ha posto il problema della magistratura come un problema che tuttora c'è. Vabbè Mario, non nell'intervento dell'altro giorno. Giuseppe da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Sono... Giuseppe, il tassista di Milano, se ricorda. Sì, più o meno. Cruciani, ho fatto un sogno terribile stanotte. Ho sognato D'Alema che scendeva da una barca a vela su un pontile e teneva una conferenza stampa e ho guardato i suoi piedi. Sì. È stata una visione terribile. Come perché i piedi? Non ho capito, la visione terribile dei piedi di D'Alema, lei che ha sognato i piedi di D'Alema? I piedi di D'Alema è una cosa tremenda, è una cosa tremenda, perché erano bianchi come quelli di un cadavere, con problemi venosi, forse anche un po' umidi, visto lo yacht, con, però Parenzo, anche intervieni tu. Palco c'era sopra, era... Ma è un sogno vero, non Parenzo, sogno, ma ha sognato i piedi di D'Alema, Giuseppe da Milano? Io volevo... Parenzo, ma bisogna capire cosa ha mangiato la notte, perché no, se uno, no, io invece uno può sognare qualunque cosa, ma secondo me è un sogno importante. Cioè, è un sogno importante perché in questo decennio questi piedi sostituiscono la gobba di un politico degli anni andati che era lo scrigno di tutto. E secondo me i piedi D'Alema che scende dallo yacht sono il segno di questi tempi. Segno di questi tempi, ma il segno nella sua testa sono. Parla di Renzi, di Compagnia Bella. Ma il segno sono il segno della follia, della sua follia, altro che, sono il segno della sua follia. Va bene, ci sentiamo domani 18:30. La risposta è dentro di te, è però è sbagliata.